Hanno dedicato alle comunità interpretanti. Il tema oggi è proprietà intellettuale, comunità patrimoniali, cittadinanza sociale e diritti. Vi presento subito la mia destra, Lauso Zagato, insegna al Dipartimento di Economia, perché ormai il Dipartimento si insegna, non più si afferisce, l'Università Ca' Foscari di Venezia. Insegna diritto internazionale con la lunga sequenza di esperto su diritto del patrimonio e diritto delle comunità della comunità europea e tutta quella vasta materia che riguarda attualmente il rapporto tra, come dire, diritti della persona e loro coniugazione territoriale. Il tema è abbastanza intrigante e anche abbastanza composito, perché ci sono tipici problemi di esplicitazione giuridica del concetto di proprietà, che ovviamente non riguarda solamente la proprietà delle cose, ma anche la proprietà dell'intelletto, delle performance, dei prodotti umani in generale e la loro coniugazione a livello di gruppo sociale di appartenenza e di legami che ci mettono in grado di riconoscerci come soggetti competenti all'interno di un gruppo. È un campo di anche accademico abbastanza nuovo, innovativo, perché è un po' una sfida, io lo penso, poi Zagato poi ovviamente mi sconfermerà, può darsi che vada nella direzione di pensare in termini non solo statuali nazionali, ma in termini più ampi e più vasti. La vicinanza di queste tematiche giuridiche è abbastanza, con il patrimonio, abbastanza evidente, sia a livello di discussione tematica che a livello di formazione degli operatori che, come dire, intraprendono la strada del lavorare, insomma, all'interno del patrimonio culturale stesso. Probabilmente c'è anche qui il concetto di identità, ma insomma non voglio andare oltre, il titolo non c'è, ma insomma evidentemente poi verrà dopo. Lauso Zagato parlerà solo lui, perché gli altri due interventori non sono potuti venire, Enrico Arrigo e Massimo Carcione. Speriamo in un'occasione prossima di avere la possibilità di articolare la discussione. Io darei la parola a Lauso. Ha del libito, anzi mi dovrei scalciare per farmi tacere, perché avrei questa relazione proprietaria col microfono che Dio me l'ha dato e guai che me lo toglie. E vi ringrazio e ringrazio ovviamente Pietro Clemente e te di avermi chiamato. Vengo sempre volentieri a Roma, nella mia gioventù, su cui tralasciamo un po' di cose, ma ero stanziale, non lontano da qui. C'è stato un certo periodo della mia gioventù in cui ero proprio stanziale in la biblioteca della Fondazione. Non esattamente, dove c'era il filosofo che hanno bruciato, come si chiama? In campo dei fiori, ero stanziale. In campo dei fiori era prima dell'età della droga, nell'età della contestazione, non è che era, e quindi vivevo per un certo numero di mesi, sostanzialmente ero lì da mattina a sera, e quindi amo sempre venire qui in centro. E il motivo per cui sono solo è dovuto purtroppo a, un po' me ne devo fare la colpa, perché l'idea di venire a fare una giornata con voi era esaltante per parecchie persone con cui lavoro, solo che ne abbiamo finito la scorsa settimana a metà di, abbiamo concluso un progetto e siamo riusciti a inserirlo nel sito dell'Unione Europea per 44 secondi, lo dico perché l'abbiamo fatto insieme, è una cosa, è una cosa, sì sì, prima, 44 secondi, scadenza, permettete che me ne vanto perché è un primato assoluto, scadenza ora 17.00 di mercoledì 6 aprile, inserimento e ricevuta automatica alle 16.59, 18 secondi. Dopo questa cosa io sono rimasto due giorni assolutamente in crisi e quindi il dottor Carcione si è preso altri impegni perché non era stato avvisato in tempo, altrimenti sarebbe venuto. Il dottor Carcione in realtà si occupa di ICOMOS e di Comitato dello Scudo Blu, quindi siamo più su una tematica del patrimonio materiale, ma dal punto di vista del ruolo dei soggetti e degli attivatori poteva essere molto interessante. E all'ultimo momento è venuta a mancare la dottoressa Enrica Rigo, con cui facciamo vari interventi insieme, che insegna qui a Roma, a Roma 3, ma ha avuto un problema, un problemino, aveva già preparato il suo intervento, me lo aveva anche mandato, io ve lo sono sicuro col suo consenso lo girerò in modo che quelli, che coloro che intervengono, che partecipano a queste giornate lo possano vedere o leggere, perché poverina lo aveva già scritto, quindi non è neanche che l'abbiano ricoverata qualche giorno fa e si è evitata la fatica. Naturalmente anche la dottoressa Zuddas Sarda, altra persona con cui lavoro parecchio, che poi ho scoperto essere conosciuta anche da, abbiamo sentito il suo nome in una riunione a cui ero intervenuto qui a Roma, si pensava eventualmente che venisse, non ha potuto, perché era importante? Perché tra gli industrialisti italiani, cioè gli esperti di diritto del patrimonio, di diritto industriale, di diritto d'autore, brevetti, marchi, eccetera, quasi nessuno si occupa del traditional knowledge. Anche tra i giovani che loro preparano, io l'ho detto al professor Ubertazzi, che è il grande capo della materia, senza mezzi termini, quasi nessuno cura specificamente queste cose, il che fa sì che nella maggior parte dei casi sia difficile approfondire queste tematiche, che non approfondiremo neanche oggi, salvo due cose che provo a dire, perché gli specialisti non si occupano in particolare di queste cose e anche a livello europeo, a parte la grande Monica von Lewinsky, non sono molti tra i maggiori esperti qui, e non sono neanche molti quelli che hanno, gli industrialisti, i giovani industrialisti che conosco, che abbiano fatto il dottorato di ricerca su temi che abbiano più a che vedere con i nostri, cioè su come si possa coniugare la proprietà intellettuale, se o altrimenti a quali forme di diritto sui generis bisogna pensare nelle materie che ci riguardano. Però questo nodo, come subito vedremo, è all'origine della Convenzione del 2003, uno dei due punti di partenza. Un'ultima cosa, prima di infervorarmi troppo, io parlo molto in fretta, a naturale, però quando mi entusiasmo parlo molto più in fretta di così, per cui non mi offenderei certamente se venissi richiamato all'ordine o dal Presidente o da altri che mi invitassero a rallentare i termini. Allora, primo problema che voglio dire, se noi oggi parliamo di questo tema, che certamente dal punto di vista credo di chi è qui, delle comunità e delle identità, è un tema che è sempre stato affrontato, dal punto di vista di noi giuristi, in particolare dell'internazionalista, è tema che con la forza di oggi non si presentava certo tempo fa, perché c'è stata di mezzo una cesura. E la cesura è la situazione del dopo caduta del muro di Berlino e la wave, il rinnovato vigore dell'identitarismo, nel bene ma anche molto nel male, che si è scatenata all'inizio degli anni 90. Questo secondo me è un dato di fatto da cui non si può non partire. La famosa orrida messaggio: non è mai esistita nessuna moschea a Zvornik, del sindaco serbo-bosniaco della città, dopo finiti i massacri e finita la distruzione, perché questo è uno dei temi che più interessa. Forme di fanatismo identitario ci sono avute più volte nel tempo, ma questo non si era, almeno in epoca moderna che noi conosciamo, raramente si era coniugato con un discorso in cui l'identità culturale era al centro dell'evento. Qui sono avvenuti nella ex Jugoslavia, vicino a noi, ma è più là, in altre parti del mondo, nella fase di grande distruzione degli stati multiculturali, multietnici, multilinguistici e plurireligiosi che abbiamo attraversato, e le convulsioni non sono ancora finite, forme e fasi di conflitto in cui la distruzione dell'identità dell'altra parte era l'oggetto specifico del combattimento. Non è che si distruggessero beni culturali perché non ci si badava per motivi di guerra, lo scopo era quello. La distruzione delle tracce dell'altrui identità diventava l'oggetto, la finalità perseguita. Io ero nel 2003 in Kosovo a Pristina, vedevo i musei, naturalmente erano successe delle cose molto pesanti da parte anche serba, e adesso che comandavano gli altri, tenevano i musei vuoti. I musei, diciamo, della storia tradizionale, culturale, albanese, vuoti, che era una forma di rivendicazione perché quei pezzi erano stati portati a Belgrado, però si sentiva montare un clima che di lì a pochi mesi avrebbe portato alla distruzione delle grandi chiese. E ancora una volta la comunità internazionale non era pronta, c'erano più soldati, più membri delle stranieri, delle comunità, dei gruppi di aiuto, delle forze armate, ma anche collaboratori internazionali, c'erano più di loro che gente del posto a Pristina a momenti, la popolazione era più che raddoppiata, e però si aspettavano altre forme di... E si aspettavano che era nell'aria la vendetta, e si aspettavano però che prendesse altre forme. Non pensavano alla cosa che invece chiunque abbia capito come funzionano queste cose poteva e doveva aspettarsi, e cioè che i gruppi ultranazionalisti albanesi sarebbero andati a distruggere i simboli della cultura slava nel territorio di Pristina, e quindi erano completamente deserti, marcavano gli ospedali, marcavano altre cose, marcavano le piccole enclave rimaste, beh, facevano anche bene giù per evitare l'uccisione delle persone, ma non passava loro dalla mente una cosa che insomma dovrebbe essere in qualche modo scontata. Allora, questo elemento di discontinuità, non voglio insistere, è in qualche modo, dopodiché possiamo riprendere tutto il discorso che vogliamo, tutti i discorsi sulla vicenda della protezione dei nuovi strumenti giuridici, che poi sono quelli che hanno suscitato il nostro interesse, cioè mio, ma ovviamente come tutti gli altri del mio ramo giuridico che sono occupati di questa materia, che li ha portati a incontrarsi e con giuspublicisti che hanno il grosso problema di come applicare a livello interno strumenti giuridici internazionali nuovi che non avevano l'altro prima, ma chi di voi ha sentito il professor Giampieretti 15 giorni fa, credo che sia stato chiarissimo su questo punto, e poi anche a incontrarci con gli studiosi di altre discipline per cercare di capire meglio insieme che cosa sta succedendo e come si possono costruire delle categorie intanto credibili e poi possibilmente condivise. Detto questo, e tenendo presente che un movimento di cesura esiste, l'altra premessa del discorso, io però in questa massa di cose che si potevano dire mi occuperò essenzialmente del tema dei diritti culturali, del diritto al patrimonio intangibile come diritto culturale, e vedrete che c'entra molto col discorso dell'identità. Però, visto che poteva essere il tema della tutela della proprietà intellettuale, e che c'è, rimaniamoci, anche questo è l'altra base del discorso su cui poi si sono sviluppati questi strumenti. Perché? Perché c'è una vicenda che risale agli anni 70, in cui l'UNESCO e l'OIPO è l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, insieme hanno cercato per lungo tempo di creare uno strumento che tutelasse, allora si diceva il folklore, termine orribile ma per capirci, cioè quelle cose, quei fenomeni proprietari che non sono tutelabili con il diritto d'autore, con il brevetto, con il marchio, eccetera, se non sotto forme sui generis. Qui però bisognerebbe aprire una parentesi che oggi non posso fare perché ho studiato queste cose in un volume edito da Maria Luisa Ciminelli, e lì per esempio la fantasia creativa a Maori non ha limiti, i Maori sono riusciti a forzare il marchio, che uno non penserebbe non c'entra mai, che non c'entra per nulla, sono riusciti a forzare la disciplina di quel particolare diritto di proprietà intellettuale che è il marchio e a usarla per scopi di tutela patrimoniale. Tuttavia, qui c'è, sarebbe molto bello farlo e credo che sia nella logica delle cose che se queste forme di collaborazione andranno avanti bisognerà porre proprio il problema del questo tema al centro. Però, il tema delle cose, diciamo. Però, quei tentativi sono tutti falliti. E arrivati al 1999, la Janet Blake, la grande studiosa che venne incaricata dall'UNESCO di preparare, intanto di decidere se bisognava fare una nuova convenzione o se bisognava invece fare un allegato alla convenzione del 1972 sul patrimonio culturale naturale, e gli disse giustamente in termini molto corretti che non si poteva fare un allegato perché le definizioni erano incompatibili e quindi si sarebbe dovuto comunque intervenire sul testo della convenzione del 72, non si poteva allegarla. L'idea era si fa un allegato, chi vuole lo ratifica, chi non vuole fa meno, così si fa meno fatica. Ma non poteva funzionare così, perché bisognava comunque intervenire sul testo convenzionale, quindi mettere le mani su una delle convenzioni di maggior successo dell'UNESCO con tutti i disastri che ne potevano nascere, perché bisognava fare una convenzione che è nuovo. Ma qui c'è la base teorica, molto dubbia è, io condivido i dubbi che animano il professor Scovazzi su questo punto, però così, il documento preparatorio dice basta tentare di trattare insieme questioni patrimoniali, identitarie di salvaguardia con la questione della proprietà, l'UNESCO basta tentare di fare cose doppie con la WIPO, ma non era offensivo, era ognuno faccia il suo mestiere. Noi dobbiamo fare uno strumento che salvaguardi a monte il patrimonio. I problemi dell'identificazione della proprietà a valle li tratterà la WIPO con i suoi strumenti. Questo punto di vista è stato accettato in pieno e questo c'è nella convenzione del 2003. Funziona una cosa del genere. Ha funzionato perché ha permesso di fare una convenzione e di creare uno strumento giuridico che prima per 30 anni non si era riusciti a creare. Ha messo in moto un processo, secondo me, a gioco lungo. Non può funzionare perché poi i problemi si ripropongono, non è mica così facile distinguere. Non è mica così facile distinguere le cose. Se però volete sentire una questione, perché poi non è così facile mantenere distinti questi fenomeni, pensate quando parliamo poi dei popoli indigeni, dove anche concettualmente è difficile operare una distinzione. Orbene, la dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2007 sulla protezione dell'identità dei popoli indigeni porta all'articolo 31, paragrafo 1, la dichiarazione solenne dell'Assemblea Generale sulla dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni, ricordatevi che è stato un grande successo comunque, reso ulteriore dal fatto che anche uno dei quattro paesi che aveva votato contro, quattro solo avevano votato contro in Assemblea Generale, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda, ma l'Australia col cambio di governo nel 2009 ha completamente cambiato posizione e si è aggregata al resto del mondo, e anche due dei paesi, anche due tra i pochi paesi si erano astenuti, mi pare le isole, da qualche parte qui la troverò, se fosse importante mi metterei a rovistare in questi fogli, la troverei. Ci sono poi aggregati perché sono pochissimi paesi, gli stati che si oppongono a questa dichiarazione solenne. Ebbene, sentite cosa dice l'articolo 31, paragrafo 1, e ricordatevi che la seconda metà è stata espunta dal testo italiano perché probabilmente pensavano alla ripetizione e non hanno capito che erano scientificamente due cose diverse. Dice l'articolo 31... Prima sancisce il diritto dei popoli indigeni a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare il proprio patrimonio culturale, la propria conoscenza, leggo la traduzione italiana, la propria conoscenza tradizionale, espressioni culturali tradizionali, così come le manifestazioni delle loro scienze, tecnologie e culture. Aggiunge, they also, questo devo leggere in inglese perché non c'è in italiano, cioè sì, hanno anche, cioè è chiaro che è inoltre, il diritto di mantenere, controllare, proteggere, cioè in qualche modo copia gli stessi verbi che ha usati prima, e sviluppare la loro proprietà intellettuale sopra questo patrimonio. La traduzione italiana ha saltato la seconda metà perché probabilmente l'ha considerata una ripetizione, non ha capito che una cosa, cioè invece il testo molto bene, molto opportunamente il testo in inglese usa apposta gli stessi verbi per indicare, come dire, non la doppia faccia nel senso morale, ma il doppio passaggio. Il diritto di avere, sviluppare, mantenere, sviluppare il proprio patrimonio e il diritto di costruire nei modi più giusti la proprietà intellettuale sopra questo matrimonio. Nella versione italiana cerchereste invano la seconda metà di questo articolo. Questo è per dirvi quanto complicata e difficile sia l'intera vicenda. Quindi l'identità culturale prima, ma poi c'è anche l'esercizio dei diritti proprietari sopra questo patrimonio, tema su cui peraltro non si deve tacere che la WIPO, una volta lasciata sola a se stessa, il comitato sulle Genetic Resources ed altro sta sviluppando un lavoro molto interessante e sarebbe ora di, o se vinciamo il nostro mega progetto svilupperemo anche questa cosa, oppure per altre forme bisognerebbe ritornare ad occuparsene in maniera più approfondita. La convenzione del 2003 comunque tace su questo problema e dice semplicemente che la essa stessa non crea problemi agli strumenti giuridici esistenti a tutela della proprietà intellettuale. Questo però crea dei problemi molto notevoli perché la gran parte di questi fenomeni di cui parliamo non potrebbe comunque rientrare nella tutela tradizionale, in quanto non sono individuali, non sono opere create individualmente, sono opere già equivalrebbero già alla nozione di pubblico dominio con cui ci riferisce alle opere e alle tradizioni risalenti oltre un certo periodo, eccetera. Aggiungo poi, per quanto riguarda il patrimonio intangibile, che c'è comunque un nodo, finisce che mi soffermo troppo su questa cosa che avevo detto all'inizio che saltavo, ma le cose non sono mai neutrali. C'è un passaggio del testo della convenzione, che forse è il 13, l'articolo 13, paragrafo D, in cui dice, sì, D2, 13 D2, in cui dice che i paesi si devono prendere misure per assicurare l'accesso al patrimonio culturale intangibile, nel contempo rispettando le pratiche consuetudinarie che governano l'accesso a specifici aspetti di questo patrimonio. Ma è un po' un ossimoro, perché ci sono tutte le pratiche segrete. Come fai a garantire l'accesso alle pratiche rispettando il segreto? Perché questo è tradotto in altri termini, questa convenzione che ha molti lati positivi, però anche questa ha dei buchi clamorosi. Questa disposizione è scritta in maniera sufficientemente complicata dal fatto che uno potrebbe non rendersi conto esattamente di cosa stiamo parlando, ma stiamo parlando di questo, dei popoli indigeni che vogliono mantenere il segreto, delle usanze, non solo gli indigeni, ma comunque insomma delle usanze segrete, quegli usi, delle cerimonie segrete che devono rimanere tali. E allora non puoi garantire l'accesso alle cerimonie segrete rispettando il diritto al segreto, perché delle due una, e purtroppo prevale l'accesso, perché poi quando si va a vedere predomina la logica d'insieme e prevale l'accesso. Questo la butto lì e poi cesso momentaneamente col patrimonio, con questi profili proprietari, ma in qualche modo c'entra anche con i diritti. Questo, come si combina al momento di garantire le pratiche per essere inseriti nella lista del patrimonio intangibile? Perché il patrimonio intangibile non è come le chiese o le città o i palazzi, dove una cosa è la foto, il materiale documentario che io porto per il palazzo, una cosa è il palazzo, una cosa è il quadro o quello che è opera d'arte su cui ci sono il droit de suite e le varie cose, e una cosa è, sono le foto che a loro volta possono creare. Molto spesso l'unica forma come dire, tangibile, concreta, è il materiale documentario preso apposta perché possa essere inserito in una lista, perché possa essere valutato chi è proprietario di questo. Non so se mi seguite su questa cosa. Cioè, se io riprendo un filmato di una cerimonia segreta che non è mai stata ripresa, o siamo stati, se lo faccio con dolo si pongono ulteriori problemi, ma se lo faccio perché siamo d'accordo, quindi la comunità fa per me una cerimonia interna perché io possa presentare perché è d'accordo che può essere utile, ma l'unica forma concreta tangibile di prova dell'esistenza di questa cerimonia intangibile è esattamente la documentazione che io porterò all'UNESCO. A questo punto il problema del regime delle documentazioni diventerà molto diverso di quanto sia per altri fenomeni. E io lo so, l'UNESCO, poiché è molto pratica, sta chiedendo una licenza Creative Commons, sta cercando di usare degli strumenti molto, perché c'è una però dei problemi ci possono essere, soprattutto se le comunità toccate non fossero del tutto d'accordo. Allora, toccati questi aspetti, io vorrei accettare la sfida che danno i nostri o gli organizzatori, dicendo che quest'anno, mi pare, se ho capito bene, si segue soprattutto Faro. Perché la convenzione di Faro del Consiglio d'Europa è una bellissima convenzione che pone alcune nozioni nuove. Voi nella presentazione qui, so anche in altre sedi, ne avete valorizzato soprattutto una che è centrale, che è quella sulle comunità patrimoniali. C'è anche un altro profilo sotto il quale la convenzione di Faro serve molto al giurista che si occupa di queste cose, che è quello che io cerco di approfondire in questa tematica, cercando di dimostrare che il patrimonio intangibile, la nascita di strumenti a tutela del patrimonio intangibile modifica il quadro dei diritti. Non c'è solo un problema, provo a spiegare perché ritengo questo, non esiste solo un problema di rapporto tra patrimonio culturale intangibile e tutela dei diritti umani, ma che con l'evidenziarsi della nozione di patrimonio culturale intangibile, se vogliamo anche di comunità patrimonio, di questi, e l'approfondirsi successivo di questi profili, sono gli stessi diritti umani che vengono in qualche modo modificati e il sistema dei diritti umani e delle relazioni reciproche tra i diritti viene modificato, e si pone poi un problema con rinnovata forza ed energia, il problema del rapporto tra i diritti individuali e i diritti collettivi, che significa che non si può più dire che i diritti umani sono solo per forza diritti individuali. E questo mi pare un tema, un'altra faccia del tema che si affronta, su cui sono, che interagisce con le altre, e su cui tra l'altro, siccome devo parlare da mesi, sapevo di dover parlare in un convegno fra una quindicina di giorni, mi sono particolarmente preparato. A di che cosa sto facendo riferimento in particolare? La convenzione, io chiedo scusa, nella mia mente non c'è una grande contraddizione tra i vari punti che ho toccato, però se invece pare che abbia fatto un salto, me ne scuso, poi magari nella discussione provo a modificare il punto di vista. Il problema è che è un blocco abbastanza complesso ma omogeneo di nozioni che si può prendere via via da diversi punti di vista. Comunque Faro, la convenzione di Faro del Consiglio d'Europa, che ha un solo piccolo guaio, bastavano 10 stati che entrassero in vigore, ci ha messo 6 anni e sono tutti gli stati non di primaria importanza dell'est europeo. Questa è la versione nigra, la leggenda nigra, cioè la versione diciamo squalificante, però noi possiamo dare una versione più nobile. Proprio i paesi dell'est europeo che hanno attraversato il dramma del dopo caduta del muro di Berlino, e alcuni l'hanno vissuta sulla loro pelle con gli eccidi, con le distruzioni che vi sono state, sono probabilmente più pronti dell'Europa occidentale tradizionale a cogliere la centralità del problema della tutela delle identità culturali, a questo punto, il patrimonio tangibile o non tangibile, è un problema delle identità e del diritto alla differenza. Sono probabilmente più pronti a questo di quanto non siano i paesi dell'Europa occidentale. È una versione ottimistica e ci tiene su di morale, perché altrimenti una convenzione così interessante, per certi versi affascinante, che finora è stata ratificata da 11 o 12 stati su 47, ricordo che il Consiglio d'Europa non è fatto solo di stati, per chi non ha via dimestichezza giuridica, scusatemi il tono professorale, ma il Consiglio d'Europa è fatto da 47 stati. E la Convenzione del Consiglio d'Europa partecipano, gli Stati europei sono un po' meno di così, ma nel Consiglio d'Europa ci sono anche alcuni paesi caucasici di confine. L'unico paese che non c'è, perché non è stato accettato in quanto è al di là del livello minimo di tutela dei diritti umani, è la Bielorussia. Chiudo questa parentesi. Ora, il fatto che di tutti questi Stati ce ne siano solo un quarto scarso al momento, siano appena riusciti a farla entrare in vigore, ce ne siano un quarto scarso e sono tutti i paesi dell'Europa centro-orientale, potrebbe portarci a sottovalutarla. Ho offerto, con un po' di ottimismo, una possibile lettura diversa. Proprio chi ha vissuto in modo più drammatico certe vicende capisce meglio la necessità di venire a capo, cioè di rivolgersi al tema del patrimonio culturale sotto il profilo identitario ma democratico. Perché se tu lasci l'identitarismo culturale alle bande, alle cose, alle cozze che si nascondono nell'ultralocalismo, fai una cosa pericolosissima. Allora, il preambolo della... Non ho ancora ricevuto calci, quindi posso andare avanti. Il preambolo della Convenzione di Faro dice, riconoscendo che ogni persona ha il diritto a impegnarsi col patrimonio culturale di propria scelta, rispettando i diritti e le libertà degli altri. E il successivo articolo 4, paragrafo alla lettera A, parla del diritto degli individui e dei gruppi a beneficiare del patrimonio culturale e contribuire. Allora, siamo in presenza di un passaggio che io ritengo importante, che vorrei collegare con l'articolo 2, paragrafo 1 della nostra convenzione del 2003 sulla tutela del patrimonio intangibile. Qui si parla di diritto a, ma nella convenzione del 2003, che pure è così avanzata, di per sé il termine diritti umani apparirebbe solo come limite alla tutela del patrimonio intangibile, che è una cosa completamente diversa. Dice l'articolo 2, paragrafo 1, che il patrimonio culturale intangibile è oggetto di tutela esclusivamente nella misura in cui risulti compatibile con gli strumenti esistenti in materia di protezione dei diritti umani. E al primo colpo, questa caveat è sacrosanto. Il mondo è pieno di tradizioni culturali che sono nemiche dei diritti umani. Qui poi la maggior parte del pubblico è femminile, evidentemente se la mettiamo sul gender, le tradizioni e le espressioni culturali lesive dei diritti della donna sono, cominciamo a nominarle e non finiamo mai. Un esempio classico che vi posso fare di altra tradizione lesiva è la simpatica tradizione degli orangisti del Nord Irlanda di, il, nell'anniversario della vittoria di Guglielmo d'Orange, attraversare in parata i quartieri cattolici di Londonderry e di Belfast. È una loro tradizione culturale, quindi loro potrebbero rifarsi a questa, ma è ovvio che era una tradizione nata come scherno insulto alla minoranza perdente e quindi come tale non può essere rispettata. Poi sono un animalista, lascio completamente perdere questo aspetto. Noi facciamo ogni estate a Venezia un seminario sulla tortura in occasione della giornata mondiale contro la tortura e facciamo anche delle pubblicazioni che credo siano interessanti nel 2012, però sospenderemo i temi tradizionali e dedicheremo il 2012, il giugno 2012, la tortura nei confronti degli animali, perché insomma ci siamo capiti, quindi è sacrosanto, però è solo questo. È sacrosanto e al limite si potrebbe dire che potrebbe non essere sufficiente. Per esempio, se deve essere in regola con gli strumenti esistenti in materia di tutela dei diritti umani, i diritti degli animali a non essere torturati, eccetera, neanche sono presi in considerazione. Quindi potrebbe addirittura essere limitativa. E qualche esempio c'è, il famoso procedimento, come sapete, la tutela del patrimonio vivente, che è di origine nippo-coreana e è stata inserita nei programmi UNESCO negli anni 90 ancora, tutela del patrimonio culturale vivente, cioè l'attribuire particolari diritti ai portatori, perché due conseguenze. Una, che mi richiama ancora alla proprietà intellettuale, non è vero che la tradizione dell'estremo oriente buddista non concede diritti. Il punto è che è una logica completamente diversa in cui, per esempio, essere citati è un onore, e colui però che è molto citato, avendo ricevuto molto onore, deve venire protetto, mentre invece i testi che uno ha fatto, più citati sono, meglio è. L'autore dovrebbe pagare, nella logica confuciana, proprio come dice, insomma, nella logica della cultura dell'estremo oriente, casomai sarebbe l'autore del libro che dovrebbe pagare e incentivare il più possibile le citazioni. Va da sé però che colui che è molto citato, avendo ricevuto molto onore, deve ricevere da parte dello Stato particolari forme di tutela. Quindi sono forme culturali nate in ambienti completamente diversi. Quando vengono da noi, anche grazie al ruolo per fatto che per 8-10 anni il presidente dell'UNESCO è stato un giapponese, e meno male, perché il Giappone è l'unico paese che si è impegnato a fondo a pagare e a tenere in piedi anche questo baraccone, perché ovviamente ne riceveva un particolare prestigio. La Francia è stato il primo paese a riconoscere il patrimonio vivente con la legge francese del 1994, e cosa ha fatto? Qual è il primo maestro d'arte proclamato? Christian Bonnet della Maison Bonnet, che è quella intagliatori di gusci di tartaruga. A me pare strano che questa sia che non ci fossero nel patrimonio culturale vivente francese esempi migliori. Ma a parte questo mi lascia perplesso. La seconda perplessità, che non è solo mia, ma riguardato l'ambiente giuridico, è che in questo modo si cozza contro il divieto di commercio, cioè è come un invito a eludere il divieto di commercio di specie in via di estinzione, cioè una delle più importanti, delle più serie convenzioni internazionali in materia di ambiente che esistano. E come sapete le tartarughe marine sono una specie in pericolo di via di estinzione, la famosa convenzione di Washington del 73, ratificata anche dalla Francia, quindi a volte queste cose succedono. E quindi, per esempio, il nostro Curin, il presidente dello Smithsonian, diceva che c'era un po' un approccio idealistico nella convenzione, cioè l'idea che che basta essere chiari e tutto può filare, basta garantire questo controllo e tutto può filare per il meglio. Però, detto questo, io mi devo anche contraddire. Cioè, è solo questo. Cioè, quindi, è vero. C'è un problema di passare le espressioni del patrimonio intangibile al filtro dei diritti umani esistenti, per certi aspetti il filtro potrebbe essere ancora più profondo e tuttavia non può essere ridotto tutto a questo rapporto univoco verticale. I diritti umani sono una cosa diversa e controllano le espressioni del patrimonio intangibile. Quando parlo di diritti umani, qui senza navigare, voglio concentrare l'attenzione su quello che ci interessa di più, che è l'articolo 15 del patto sui diritti economici, sociali e culturali, quindi quello dedicato alla tutela del patrimonio culturale. E quest'ultimo ribadisce l'obbligo degli Stati di concedere a ogni individuo di partecipare alla vita culturale. Questa era Cenerentola. La Cenerentola dei diritti. Pensatevi che due anni fa, quindi, no tre, no due anni fa, 2009, sono stato chiamato a parlare su questo patto, era l'anno del patto, di questo patto, da un importante ONG di cui non vi faccio il nome, e dice, ma dovrebbe parlare, scelga lei se parlare sui diritti economici o sociali. Dico, perché non quelli culturali? Ma perché ci sono anche diritti culturali in questo patto? Era un qualificato rappresentante di una ONG, per cui la questione, i diritti culturali sono sempre stati visti come un profilo puramente programmatico e secondario, poco chiaro e preciso. Ma è solo questo? Domando ancora una volta. E io non credo che sia così. Secondo me questo complesso di sistemi, di cui sono al cuore la Convenzione del 2003 per un verso e no, questo complesso, la Convenzione del 2003, la Convenzione di Faro a livello regionale e la Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni, che è di fondamentale importanza, giochi un ruolo importante per ridisegnare e riqualificare in profondità quella nozione così sbiadita e stantia e poco utilizzabile di diritto culturale che ci viene dagli anni 60 e dai patti. Questo è, lo abbiamo visto per quanto riguarda la dichiarazione, perché l'articolo 8, diritto degli individui appartenenti ai popoli indigeni a non essere soggetti ad assimilazione forzata, articolo 9, riconoscimento del diritto di appartenere ad una comunità, appartenere alla comunità, non solo siccome appartieni per disgrazia a una comunità poco potente non devi essere discriminato, sottinteso così ti assimili meglio con la maggioranza, ma il diritto, che era la logica degli anni 60, perché è inutile dire anche la logica progressiva, diciamo, degli anni 60, già era quella, perché le minoranze devono venire assimilate nel gruppo di maggioranza e non devono essere oggetto di trattamento separato, perché quello era il riconoscimento a far parte di una comunità, ad essere parte della propria comunità, e il diritto ovviamente dei bambini all'accesso alla propria cultura e all'uso del proprio linguaggio. Se avrò ancora tempo, fra 10 minuti, dovrò anche dire qualche cosa sulla il ruolo fondamentale e positivo che sta avendo la Corte Interamericana dei Diritti Umani, che in alcune sue recenti sentenze sulle popolazioni indigene del Centro America ha saputo dire delle cose di notevole interesse. Allora, questo più la dichiarazione che abbiamo, quanto abbiamo visto sulla Convenzione di Faro, ci inducono a ritenere che col patrimonio culturale intangibile, con la tutela del patrimonio culturale intangibile, si modifica anche il quadro dell'esistenza dei diritti umani. Il gruppo di Friburgo, che è un gruppo che si occupa giuridico, antropologico, che si occupa di queste cose e non ha sempre detto le cose, non sempre è chiarissimo nelle cose che vuol dire, tuttavia ha fornito nel 1998 la più articolata definizione di diritti culturali che io conosca, quindi inviterei a vedere senza perdersi, perché a volte ci si perde nelle teorizzazioni del gruppo di Friburgo che non si capisce, ma se appartengono proprio loro, sono andati un po' troppo oltre l'interdisciplinarietà e quindi a volte non si capisce, sembra una disciplina nuova e creata e che fa un po' di difficoltà di lettura. Tuttavia questo è un grande contributo, scherzi a parte, che hanno dato. Distingue 6 profili: diritto all'identità e al patrimonio culturale, diritto all'identificazione con la comunità di appartenenza, diritto alla partecipazione alla vita culturale, diritto all'educazione e al training, diritto all'informazione, questi erano tutto uno, perché l'altro è diritto alla partecipazione alle politiche culturali di cooperazione. Se a voce ne avete detto 9-10, in realtà sono raggruppati per essere 6. Ora, alcuni di questi sono tradizionali diritti culturali, diritto alla partecipazione alla vita culturale, e diritto all'educazione, questi profili qui. Però quelli sono i primi due che mi interessano particolarmente, e cioè diritto all'identità e diritto al patrimonio culturale. Questo ancora una volta lo legherei con quanto stabilisce la dichiarazione e con quanto stabilisce la convenzione di Faro e ovviamente la nostra convenzione del 2003. Allora, se io provo a interpretare, a lanciare questa interpretazione, la convenzione del 2003 e la congerie di strumenti che la accompagnano, la precedono, la seguono, in particolare la dichiarazione, la convenzione di Faro e anche alcuni documenti dottrinali come lo stesso documento del gruppo di Friburgo, specificano e ridisegnano, ridefiniscono la nozione di diritto culturale, la povera nozione di diritto culturale di cui all'articolo 15 del patto sui diritti economici, sociali e culturali. Cioè i diritti culturali non sono più quelli scritti lì, ma sono questi. È un tema che il diritto internazionale conosce. Sempre uno strumento giuridico può essere interpretato alla luce di strumenti dal punto di vista contenutistico, alla luce di strumenti elaborati anche decenni dopo. È quanto ha stabilito, per non andare distante, il Tribunale per i crimini nella ex Jugoslavia, in una pronuncia Kordic e Cerkez, quando, siccome la Convenzione del 54 sui beni culturali nei conflitti armati non era uno degli strumenti che il Tribunale poteva applicare, perché il Tribunale per i crimini nella ex Jugoslavia poteva applicare solo le vecchie, non sto adesso a annoiarvi con questo che è un altro tema, solo le vecchie convenzioni sul diritto di guerra del 1899-1907, dove si trattava semplicemente di non distruggere beni di interesse religioso o artistico. Allora, alla luce di questo, quando questi signori vennero accusati per alcune distruzioni che avevano commesso, venne opposto alla Corte che la Corte non poteva applicare la Convenzione del 54 sulla protezione dei beni culturali nei conflitti armati, perché quando era stato nominato il Tribunale gli era stato detto: tu devi agire solo sulla base del diritto consuetudinario generale, cioè il diritto delle genti, e degli strumenti del 1907. Ma il Tribunale ha giustamente replicato che quell'articolo della Convenzione del 1907 che si diceva che poneva semplicemente un divieto di distruggere le cose di interesse religioso e artistico e ospedaliero, gli ospedali, andava riletto alla luce dello strumento specifico di 50 anni dopo, e quindi il blocco delle nozioni contenute nella Convenzione del 54 sostituiva quello vecchio. È una questione assolutamente quindi che possiamo dare per scontata. Per cui, anche rimanendo, come ha fatto finora, nel campo dei diritti individuali, il diritto dell'individuo alla comunità e al patrimonio culturale diventa espressione e diventerà nel prossimo futuro, e deve essere agito così, e questo è uno strumento, scusatemi la superbia, ma credo che si possa davvero, se seguiremo questa impostazione, ottenere qualche cosa, perché oggi la nozione di diritto culturale, anche individuale, viene riqualificata da questi nuovi strumenti, e quindi il diritto al patrimonio culturale, il diritto all'identità culturale, pur non previsti in quel pallido articolo di 50 anni fa, che era appunto, in realtà si occupava dell'educazione, e poi in realtà voleva semplicemente dire diritto all'assimilazione, cioè un po' il contrario di quello che intendiamo noi, è completamente rivisto oggi. Per finire, su, anche se c'erano moltissime altre cose, ma giustamente mi scuso per la... Siamo sempre e solo nel caso, col patrimonio culturale, con le comunità identitarie, siamo sempre e solo nel caso, nel campo del diritti individuali, o emerge un problema di diritto collettivo? Il diritto all'identità, oltre che alla salvaguardia del patrimonio culturale, Il diritto all'identificazione con la comunità e il gruppo di appartenenza introduce per forza anche un discorso sui diritti collettivi. D'altra parte, il patto sui diritti civili e politici è tutto fondato sull'alternativa tra l'articolo 1 e l'articolo 27. L'articolo 1 è il diritto all'autodeterminazione dei popoli, e c'è anche l'articolo 1 dell'altro patto, che è il diritto collettivo. L'articolo 27 è il diritto degli individui appartenenti alle minoranze a non essere discriminati, eccetera. Non voglio eccedere con questi problemi. Quello che però mi preme è che non stiamo parlando di diritti, c'è qualcosa che va oltre il diritto classico del membro della minoranza a non venire discriminato. È un diritto identitario e quindi un diritto al mantenimento del gruppo. Ha per sua natura carattere collettivo. D'altra parte, con una interessante interpretazione evolutiva, nel suo, anche questo, una volta non sono tutte cose che compaiono in situazioni diverse e bisogna fare la fatica di legare tra loro strumenti diversi, perché gli studiosi dell'attività del Comitato dei Diritti Umani, del Patto sui Diritti Civili e Politici, che studiano questo comitato, ogni tanto emana dei commenti generali. Nel commento generale all'articolo 27 ha notato che questa protezione ha dato un'interpretazione evolutiva di grande interesse dell'appartenenza alla minoranza, al gruppo minoranza, sostenendo che per avere senso deve riguardare la sopravvivenza del gruppo minoritario come tale e non solo i singoli individui. Ci sono una serie di strumenti che si occupano di queste questioni, ma io vorrevo in particolare sottolineare la penultima cosa che tocco è l'attività della Corte Interamericana, ma prima torniamo alla nostra Europa e al momento di, così poi magari le cose che ho detto staccate tra loro alla fine risultano meno disgregate di quanto sembri. Noi abbiamo l'esempio dell'Europa degli anni 90 è la distruzione del patrimonio culturale che costituiva strategia di dominio volta a distruggere, non sempre allo sterminio fisico, non sempre al genocidio come tale, ma al genocidio culturale. Un altro profilo che non abbiamo tempo qui per approfondire, ma sarebbe meritevole di grande risalto, è il ritorno del genocidio culturale come specifico fenomeno, non come antipasto allo sterminio. Logico che lo sterminio degli ebrei comportava anche il genocidio culturale, ma non è quello che stiamo dicendo, stiamo parlando per la distruzione delle forme identitarie del gruppo, eccetera. Quindi, solo rifacendosi a una collocazione del patrimonio culturale in stretta rapporto con l'identità collettiva dei popoli, si può dare ragione di questa sequenza di comportamenti riconducibili a una progettualità distruttiva che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni. Ma dicevo che c'è di più e c'è l'attività che ha di estremo interesse che ha saputo svolgere la Corte Interamericana per i diritti, la Corte Interamericana sui diritti dell'uomo, sempre se riuscirò a, se no alcune cose le dirò a mente, ma no, forse ho avuto. La Corte Interamericana in una serie di casi, per esempio su delle comunità indigene del Paraguay e da altre, eccetera, ha saputo, per esempio, comunità indigena Yaqui e Axa contro il Paraguay. E si trattava di una comunità privata del possesso delle terre ancestrali, in nome del cosiddetto progresso, e in spregio anche agli accordi e a queste cose. La Corte giudica che c'è stata una violazione della Convenzione interamericana sui diritti umani. Ma non solo perché gli hanno portato via la terra, perché sa mettere questo in, in stretta relazione con la dimensione culturale della privazione subita da questa comunità, proprio per lo speciale carattere che assume il rapporto con la terra in quelle culture. In caso di conflitto tra il diritto della comunità indigena e altri diritti dei privati, quello che è veramente in gioco sul primo versante è la salvezza collettiva del diritto collettivo del primo gruppo, e quindi questo fa agio e supera eventuali altri diritti proprietari delle compagnie o delle questioni eccetera. Cioè il diritto, la versione, la faccia collettiva del diritto permette al diritto della comunità, al diritto degli indigeni di prevalere su quello delle compagnie nel discorso della Corte, perché non sono diritti tutti di pari grado, cioè la Corte non, in quel caso non si disconosceva il fatto che i titolari dei diritti di proprietà su quelle terre avessero fatto queste operazioni con compagnie straniere, eccetera. Il problema era che si cozzavano diritti teoricamente di pari grado, solo che nell'un caso erano solo i diritti, diritti individuali, in un altro caso ai diritti individuali si non si sommavano, ma proprio venivano in qualche modo sussunti e riqualificati nel diritto collettivo al mantenimento dell'identità, e questo rendeva tale diritto, il primo diritto, il secondo che ho detto, insomma, prevalente sull'altro che aveva misure solo individuali. Si tratta di un fenomeno di estremo interesse, come pure nelle comunità andine. Noi abbiamo fatto un progetto megalomane e io ho dovuto tenere le Ande, apposta, perché in materia di proprietà intellettuale, se mai riusciremo a approfondirla davvero, è la comunità andina, mentre c'è una specie di tribunale di comitato, insomma, che prende delle decisioni su contrasti, eccetera, che ha saputo dire delle cose di estremo interesse sulle tutele proprietarie di queste popolazioni. E per finire, questo praticamente, c'è quella famosa cosa guatemalteca, mi pare, su una comunità maya che è stata sterminata, e i bambini, come capita in certi tipi di conflitti, ovviamente dati in adozione. La Corte interamericana non si è limitata a ordinare la punizione a Guatemala, la punizione dei colpevoli, queste cose, eccetera, ma ha ordinato, intanto, cosa che mi interessa moltissimo perché sto studiando, come dicevo, approfondendo la nozione di genocidio culturale come nozione specifica, ma ha rilanciato la nozione di genocidio culturale, non tanto per quelli che erano stati uccisi, ma per i bambini sopravvissuti. Cioè, il genocidio culturale non hanno subito il padre e le madri sterminate, il genocidio culturale hanno subito i bambini strappati, portati via, dati via individualmente a comunità completamente differenti. E quindi ha ordinato che, siccome quel tipo particolare di lingua maya era sparito, quel dialetto, e sopravviveva solo all'università di Città di Guatemala, che i bambini, che l'università di Città di Guatemala, che lo Stato pagasse, te qui non so, qui forse voi antropologi potreste dirmi, ma è una cosa talmente artificiale che non può avere alcuna riuscita, tant'era lasciarli dov'era, che li creerà su questi bambini una doppia malattia, una doppia crisi, può darsi, però dal punto di vista giuridico è di grande valore questa affermazione, per cui praticamente devono venire rieducati a spese dello Stato e con l'inserimento della facoltà di lingue della Città del Guatemala, che è l'unica che avesse ancora, dove esistessero ancora i tecnici linguisti che parlano questo dialetto e che permettessero il recupero da parte di questi ex infanti di questo linguaggio. Io immagino che ci possano essere anche amici psicologi e psicologi sociali con cui ho parlato, mi hanno manifestato molti dubbi sulla funzionalità di questa soluzione, ma dal punto di vista giuridico invece la solennità di un'affermazione di questo genere, che lo Stato deve poi rendere pubblica, eccetera, è di altissima importanza. Ecco, allora, come posso finire? C'è una... In che cosa consisterebbe questo terzo livello? Patrimonio intangibile e diritti umani come limite alla tutela del patrimonio, primo livello. Secondo livello, il diritto al patrimonio intangibile come lui diritto umano, riqualificazione del diritto umano, in cioè specificamente del diritto collettivo che si media e che sta nello stesso livello con altri diritti umani. Se posso provare a fare una battuta, Cinderella non abita più qui. Chi si occupa di queste cose non siamo più quelli tenuti in sottordine rispetto a quelli che si occupano di altri temi. Vuol dire, scusatemi, ma sono ancora fuori di me. A novembre, mentre preparavamo il convegno sulle culture dell'Europa, eccetera, mi chiama, è un altro esempio come quello che vi facevo prima, mi chiama uno per dire perché è tornato un suo amico importante del comitato Tibet. E vuole parlare con me, che sono insomma, quelli che si occupano dei diritti umani nel veneziano, dico benissimo, ma gli stiamo interesse, eccetera. Parlo con questo e gli dico, a proposito, c'è questa questione importante che è il fatto che la Cina ha inserito l'opera nazionale tibetana nella lista del patrimonio intangibile, siccome qui c'è anche un problema di riconoscimento e di rapporto con le comunità indigene, vorremmo sapere com'è andata. Silenzio mortale. Dall'altra parte io mi immagino la faccia di questo che avrà detto il suo amico, ma con chi mi hai fatto parlare? Ma con tutte le cose importanti questo qua si sarà occupato dall'opera tibetana? No, basta con queste cose. Il problema della tutela, della manifestazione e della dialettizzazione eventuale o delle sopraffazioni con le manifestazioni culturali tibetane sono al cuore del problema anche e saranno al cuore dei problemi dei rapporti Tibet-Cina. Sono e saranno, quindi non più essere avere questa cosa. L'internazionalismo, chi studia i diritti umani deve occuparsi dell'acqua e del diritto di voto o del crocefisso, che ridico, poi il crocefisso è anche un profilo di diritto culturale, ma vuol dire poi questo lasciamo perdere oggi, ma e queste sono le cose. Allora, chiudo. C'è una bella definizione del professor Salerno, quindi un internazionalista di vaglia, non è che sono solo in questi, che dice: l'oggetto della tutela, a questo punto, del diritto culturale, l'oggetto della tutela che gli stati devono dare alle manifestazioni, alle espressioni del patrimonio culturale, è la, lui ha detto preservazione, e qui è un termine che non so, tutti noi insieme credo che siamo limitati, ma invece la seconda parte più interessante di questo discorso, di un patrimonio culturale identitario come bene collettivo dell'umanità, in quanto destinato a essere fruito dalle successive generazioni del gruppo che lo ha espresso e quindi dell'umanità. Qui tra l'altro mi dispiace appunto che non c'era che non ci sia la dottoressa Rigo che aveva preparato un intervento in termini diversi, ma comunque particolarmente sul problema della fruizione da parte delle future generazioni. È una dottrina molto qualificata di un grande internazionalista, non specificamente su queste cose, altrimenti non avrebbe usato il termine preservazione, che è un termine involontariamente riduttivo, che può portare a una conclusione convergente. Non userei neanche il termine multiculturale, ma userei il termine interculturale, ma in altre parole l'obbligo degli stati è quello di mettere le comunità e i gruppi minoritari, gruppi indigeni, gruppi locali, ma come dicono e ci insegnano giustamente gli antropologi, anche i gruppi elettivi, che non è il gruppo, la comunità è anche di propria scelta, e come dice la Convenzione di Faro, in grado di far vivere e perpetuare il proprio patrimonio intangibile. Quindi, tra l'altro, essi nel far questo perseguono un interesse che è proprio dell'umanità alla salvaguardia, non conservazione, salvaguardia in quanto patrimonio vivente, tra l'altro, se posso dirlo, della diversità bioculturale. Qua mi fermo per andare troppo in alto, ma è un obbligo, quindi sia negativo che positivo. Negativo perché è non solo il divieto del genocidio, il divieto della persecuzione culturale del gruppo, degli individui, ma anche del gruppo in quanto tale, ma anche obbligo positivo di promozione delle condizioni che meglio consentano a gruppi, comunità, individui come tali, a gruppi di mantenere la propria cultura e la propria autodeterminazione culturale. Naturalmente questi diritti si devono anche mediare, e quindi qui si recupera il discorso dell'inizio sui limiti, con altri diritti. perché noi abbiamo un esempio che può essere molto negativo quando il diritto collettivo prevale su quello individuale, all'incontrario, che è quanto capita in Nuova Zelanda. Se c'è una comunità indigena che è riuscita a ottenere, a imporsi, a tenere una storia anche per certi versi bellissima, quella Maori, però lì si è arrivati in quello che la grande antropologa culturale Elizabeth Dayte mette come una parla di neofeudalesimo capitalistico, nel senso non è capitalismo feudale, proprio un neofeudalesimo all'interno della globalizzazione capitalistica, per cui si arriva al punto che è uno Stato basato su due comunità e per gli individui, per i singoli, per i giovani, ragazzi, non c'è spazio, non c'è sufficiente spazio individuale, nel senso che questa logica di protezione del gruppo finisce per opprimere gli individui. E questo è naturalmente, allora da questo punto di vista non c'è dubbio che il diritto collettivo deve mediarsi ed essere frenato da altri, dal rispetto dei diritti individuali, perché altrimenti sappiamo benissimo come il diritto del gruppo può trasformarsi in un incubo, ma è inutile che lo dica io a voi. Il riconoscimento del diritto del gruppo, se non si crea poi un sistema di contrappesi, ci mette, non fai tempo a essere contento di quanto ottenuto e ti trovi a vivere in pieno incubo, ma insomma questo lo sappiamo. Scusatemi l'appassionata confusione di questo discorso, ma credo che sia ora di porre un fine, porre un termine. No, è un bel tema, anche perché gli integralisti vanno fatti annegare nella loro acqua, cioè si sono messi su questa strada, gli diamo, chiedo scusa. Il problema, sì, sono belle domande che ci obbligano. La prima che ha fatto Alessandra mi mette in crisi, perché un ambiente giuridico, soprattutto un ambiente giuridico internazionalistico, tradizionalmente il diritto culturale è la Cenerentola, non c'è fondamentalismo culturale. Gli internazionalisti si sono sempre occupati poco o nulla di questo tema e se ne sono occupati sempre solo sotto una voce, cioè il diritto all'educazione, e cioè il diritto individuale a non venire discriminato. Questo è e questo non è stato. Quindi dal punto di vista giuridico in genere, ma soprattutto dal punto di vista del mio settore giuridico, diritto internazionale, diritto dell'Unione Europea, eccetera, questo fondamentalismo culturale tradizionalmente non si è manifestato come invece avviene in altri, e c'è sempre stata una certa, potremmo anche dire forse che l'internazionalista è un po', forse per questo che a volte gli internazionalisti adesso stanno scoprendo il rapporto con voi antropologi, perché forse è un po' più relativista rispetto a altre forme più rigide anche in materia tra i vari settori del diritto. Comunque il problema esiste, io l'ho visto, me ne sono accorto non tramite il diritto ma studiando appassionatamente le nuove forme di, cioè, perché sono partito ero un internazionalista specializzato in diritto da aspetti internazionali del diritto della proprietà intellettuale, e quindi mi occupavo in particolare di diritto d'autore, marchio, eccetera. Sono venuto poi via via spostandomi su problemi legati ai popoli indigeni e poi al patrimonio culturale, eccetera. Adesso sarebbe probabilmente ora di riattraversare anche all'indietro e di farsi chiarezza in una mente che fa un po' di confusione. Però è stato studiando la Nuova Zelanda e venendo da una parte l'abilità neozelandese e maori in particolare a creare forme sui generis, però basate anche sui diritti esistenti di tipo occidentale, modificandoli, cioè la comunità maori ha vinto importantissime battaglie a livello mondiale, ha fatto la logo, si è inchinata. I giapponesi, quelli dei videogiochi, si sono inchinati, cioè ha vinto battaglie galattiche contro i grandi poteri economici internazionali, riducendoli piegandoli al proprio volere. E dentro il Nuova Zelanda c'è stata modificazioni della legge sul marchio, hanno permesso forme di tutela del gruppo, perché il marchio, essendo più generico, ti crea meno problemi di quanto non sia l'opera d'arte individuale, perché deve essere, perché il diritto d'autore non si riesce a piegarlo, perché il diritto d'autore occidentale, per com'è, ha la creatività individuale. Devi fare il diritto sui generis, non riesci, mentre invece il marchio ha profili diversi, però non sempre le conoscenze tradizionali si possono tutelare con una tutela simil marchio. La Nuova Zelanda ha fatto dei passi, ha fatto delle esperienze in quella direzione che sono abbastanza singolari, però lì mi sono trovato poi di fronte appunto a un'espressione che questa cosa, la Nuova Zelanda è affascinante anche per il passato, dimostra che i trattati non sono mai lettera morta, contano. Waitangi, l'unica all'origine della specificità neozelandese, c'è l'accordo internazionale. L'unico caso in cui uno Stato europeo abbia fatto un accordo internazionale con tutti i crismi, con uno Stato inventato dagli inglesi, è quello della Nuova Zelanda, perché siccome stavano arrivando le altre potenze coloniali, allora la regina, gli uomini della regina, fecero un accordo con il consiglio Maori dell'isola del Nord, che non esisteva, lo fecero loro sul momento, in cui il consiglio dei Maori dell'isola del Nord rinunciava alla propria indipendenza e si metteva nelle mani e concedeva alla regina d'Inghilterra il titolo della sovranità. E questo trattato venne messo nella Gazzetta Ufficiale a Londra, ed è l'unico caso in tutta la storia della colonizzazione. Sembrano sciocchezze, ma poi non lo sono, perché quella non era terra nullius. Essendo esistito, anche se artificiosamente, un organo sovrano, artificiosamente, perché lì ogni tribù faceva per conto suo, quindi l'idea di un consiglio generale maori che decide era un'invenzione inglese. Però il problema è che stavano arrivando gli schiavisti, i francesi, eccetera, cioè era una situazione drammatica. In cui c'è un accordo internazionale solennemente sancito dalla potenza colonialista con l'altra potenza che si dà. Potenza, insomma, con questa cosa che non esisteva. Questo fatto, lì per lì, sembrava non voler dire niente, infatti all'inizio i colonizzatori inglesi non erano tanto più buoni del colonizzatore normale. Ma essendo una... comunque fatto giuridico, col tempo ha modificato, ha creato una storia totalmente diversa, perché non è mai stata terra nullius, non è mai stato potere ex novo che si instaurava su ipotetici popoli barbari, eccetera, ma era semplicemente una civiltà esistente che si dava, però lì poi ho visto forme di, appunto, di fondamentalismo, cioè forme di fondamentalismo giuridico-culturale, cioè quando questa forma dà luogo a un dualismo delle strutture per cui non vi è manifestazione della vita in cui non siano le associazioni, neanche le corrispondenti facce organizzate maori, e nessuno spazio per la vita dei singoli, per le forme ma anche per le forme sociali, culturale intermedia, e lì ho studiato i pericoli di questa cosa. Adesso invece probabilmente alcuni schemi intellettuali, le letture, le compagnie che frequento adesso mi forniranno alcuni strumenti maggiori. Dal punto di vista dei giuristi italiani assolutamente questa cosa non c'era tradizionalmente, perché è una conquista dare spazio, dare più importanza ai diritti culturali, soprattutto uscire da questa pallosissima cosa per cui i diritti culturali vuol dire il diritto all'educazione, che non c'è altro. La questione Cina e Giappone. C'è tutta una vicenda drammatica dell'imposizione dei diritti di proprietà intellettuale sulle civiltà dell'estremo oriente, che è una storia anche drammatica. Per farvi un esempio, quando gli Stati Uniti pretesero da Taiwan il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale americana, con tutti i problemi che ha Taiwan, che dipende al 99,9% dagli Stati Uniti, l'organo legislativo di Taiwan si rifiutò culturalmente, per motivi proprio culturali, di fare una simile cosa, e il Presidente dovette sciogliere il Parlamento e rifare elezioni per questo motivo, perché gli Stati Uniti stanno mettendo una lista nera dei paesi nemici della libertà di commercio proprietà intellettuale, e lì il discorso era che il diritto intellettuale è contro natura, il diritto alla proprietà intellettuale, in realtà ho sbagliato a dire, forse a dire buddista, lì era proprio, c'è una frase che risalirebbe proprio a Confucio, si dice, per cui, e quindi non è buddismo, che per cui si dice che è onore essere citati è un onore, non una cosa perché qualcuno debba pagare. Però, a parte questa cosa, a parte che comunque un discorso sul buddismo è stato fatto al negativo al tempo del predominio culturale giapponese negli anni 80-90, del predominio industriale, dicendo che i buddisti copiano. Quindi c'è un rapporto anche tra queste cose. Gli occidentali, dentro un discorso, e non so qui se non ci sia del fondamentalismo culturale, ma dentro il discorso degli anni 80-90 del prevalere giapponese, e quindi sulle colpe dei giapponesi che praticano il dumping, voilà, che non sto a annoiarvi, ma c'erano anche poi, testi giuridici riportavano queste motivazioni culturali, i buddisti copiano. Per i buddisti copiare non è reato, per cui vedi che sia, pur con le differenze enormi tra le teorie del confucianesimo e il pensiero buddista, però dal punto di vista centrale. Tuttavia, fatto tutto questo, io poi ho visto l'altra faccia, e cioè l'arrivo in Occidente di forme di tutela completamente diverse dalle nostre tradizionali, che gli studiosi di proprietà intellettuale, non per criticarli, qui non ci sono, anche i miei amici, eccetera, manco sapevano che esistessero, a volte anche fino a 6 mesi fa, o fino a poco tempo fa, qualcuno che l'ho osservata io, e cioè la tradizione nippo-coreana, che però le leggi ufficiali sono degli anni 50, ma sono tutte, risalenti nel tempo, della tutela del portatore di conoscenza tradizionale, il nobile portatore che quindi deve essere a cura dello Stato, vivere nell'onore, in quanto portatore, in quanto tradizione culturale vivente. E la prima legge è quella giapponese del 50, pochi anni dopo ne ha fatto uno la Corea. Queste cose ci sono in qualche modo, perché l'articolo 2, paragrafo 2, lettera E della Convenzione, quando parla del craftsmanship, in qualche modo riporta queste cose sui portatori, sui patrimoni umano, living human treasures. Il programma Living Human Treasures dell'UNESCO degli anni 90, in qualche modo, dopo l'inizio della presidenza giapponese, quindi l'arrivo di una serie di elementi culturali provenienti dall'Estremo Oriente, riporta proprio questo genere, riporta questo genere di questioni. Per il resto, però, comunque, detto questo, voi mettete in grande tutti i punti che ho sentito sono di è vero, bisognerà tornare a ragionarci sopra, che non si vada verso altre forme di estremità, eccetera. Devo dare una spiegazione anche, cioè io colgo, non sono in grado di rispondere perché non è una cosa a cui rispondere, è una cosa su cui avviare un dibattito. Vorrei pensarci su alcune delle cose che sono dette, vorrei pensarci un altro poco, quindi mi scuso se mi sto limitando a dare le spiegazioni e non a rispondere a tamburo battente a alcuni profili più in profondità, perché ci voglio pensare. A proposito del Guatemala, la Corte ha fatto una novità, è una novità sconvolgente, anche se ormai risale a 3-4 anni fa, però insomma non ho chissà quando, è una sentenza del 2006-2007, l'ha commentata molto bene il professor Scovazzi, e poi me ne sono occupato anche, e qualcun altro. E la questione non è perché non era nelle richieste, il problema era che era il tempo degli squadroni della morte, Guatemala ha cambiato linea, dentro questo procedimento di democratizzazione del Sud America c'è anche il fatto che molti stati centro-sudamericani accettano le loro colpe e quindi non si oppongono al fatto che i casi vengano portati davanti, collaborano con la Corte interamericana. Il guaio della Corte interamericana dei diritti dell'uomo è che tre staterelli privi di importanza come anche Cuba, ma soprattutto Stati Uniti e Canada ne sono fuori, per cui in realtà è la convenzione, è la corte interamericana dal Messico in giù, cioè centro-sudamericana, questo è il limite più grave. Ma a parte questo problema era che era avvenuta una strage, gli squadroni della morte non si occupavano solo di oppositori politici, quando non andavano a ammazzare famiglie di oppositori politici essenzialmente si occupavano di sterminare le comunità indigene, questa era anzi la loro prima e fondamentale funzione, anche se non se ne parlava, poi venivano usati, ma questa attività di sterminio era continuativamente riprodotta nel tempo. In questo massacro del plan de non mi ricordo che cosa, vengono uccise 250, sono comunità indigene che parlano dialetti che hanno solo loro, quindi il dialetto si era praticamente estinto. Con la morte di questa popolazione adulta il dialetto si era semi-estinto. Erano rimasti poche persone a parlarlo, più c'è tutta questa attività che viene fatta nell'Università di Città del Guatemala, in cui ci sono esperti che raccolgono il linguaggio parlato. A me interessava molto perché, come sapete, nella nostra convenzione del 2003 la lingua conta solo in quanto elemento di trasmissione della cultura, e quindi in questo caso io dubito che la convenzione del 2003 sarebbe stata utilizzabile, perché la lingua come patrimonio di cultura orale, paradossalmente arriveremmo al punto che una ben pensata operazione genocidaria su una lingua parlata che non abbia particolari tradizioni culturali, che non sia più vivente perché hanno ammazzato tutti i bambini, li hanno educati in un'altra parte, non rientrerebbe nella protezione. Cioè, provate adesso, se andare avanti, ma provate a pensarci, se rileggiamo l'articolo 2, paragrafo 2, lettera A della Convenzione del 2003, la lingua vi rientra in quanto portatrice di cultura, che è anche una cosa che ha il suo senso per evitare che sia il mero strumento comunicativo. Tuttavia, avresti allora dei casi che un'operazione genocidiaria ben condotta renderebbe inutile, perché non è più vivente, e quindi renderebbe inutile, né ha lasciato dietro di sé tali capolavori, perché nella lista del patrimonio intangibile c'è quel teatro indiano che è scritto in una lingua indiana arcaica che rimane viva solo per studiare quel teatro, cioè che la cui vita è una vita artificiale, perché altrimenti non si potrebbe capire quelle forme teatrali rigide. Qui però questo non c'è, per cui paradossalmente da un'operazione condotta con simile ferocia non sarebbe possibile utilizzare per gli eventuali superstiti lo strumento della Convenzione del 2003. La Corte, utilizzando gli strumenti noti di tutela dei diritti umani, è andata avanti, e soprattutto quello che mi interessa è che ha rielaborato la nozione di genocidio culturale, che non poteva rielaborare. È un caso tipico in cui il giudice internazionale si assume un ruolo del lawmaking, cioè fa la legge, perché è vero che c'è una convenzione sul genocidio, ma la convenzione sul genocidio del 1948 esclude esplicitamente da sé il genocidio culturale, cioè lo nega. Quindi la Corte, usando alcune affermazioni che avevano aperto la strada del Tribunale per i crimini nell'ex Jugoslavia, che non era nato fino in fondo, ma insomma aveva provato a dire che la nozione di genocidio culturale serve perché spesso il genocidio culturale anticipa il genocidio vero e proprio, quindi in questo modo aveva fatto rientrare dopo 40 anni che non se ne parlava più, e questa Corte invece rielabora questa cosa, dopodiché io non so se sia riuscita davvero questa operazione, perché voi mi dovete dire che senso ha. Io ho l'impressione che, a parte la nobiltà giuridica e l'importanza su un gruppo di persone come aveva 20 anni, che aveva avuto 20 anni, che già avevano subito queste terribili cose da bambini, degli rimetterli nelle mani di estranei che gli reinsegnano una lingua completamente casnovo, non lo so se quale fosse il livello vivente a questo punto, perché ormai erano rimasti cose fonetiche, raccolte fondi, cioè erano state, come dire, archiviate, quello era poco più, per cui probabilmente sul lato pratico. Hai ragione, come eredi di una cultura, come però eredi, non come soggetto, come eredi. Come eredi della cultura, certo, come eredi di quella cultura gli spetta, certo, però un pochino. Poi era legata a altri fatti, come dire, la pubblico riconoscimento di colpa da parte dello Stato, che doveva quindi in tutto il territorio maya fare una serie di dichiarazioni la domenica dopo messa al coso, sia in spagnolo che nei vari dialetti maya del posto, cioè è bello che lo Stato l'ha accettato, quindi è una cosa, da questo punto di vista è tutta una cosa importante. Io ho solo dei dubbi che su quei gruppi di quando siano stati 60-70 ragazzi, che ormai non sono più bambini, e che gli capita questo controindottrinamento, guarda quanto utile possa essere stato, quello dei dubbi, ma il resto è stato bello. È stato bello perché hanno fatto una serie di cose ufficiali, pubbliche, eccetera, con riconoscibili le autorità delle varie regioni, delle vari paesi che riconoscevano le colpe, che leggevano un comunicato che quello Stato riconosceva le sue colpe, eccetera, e lo leggevano, sono attenti che apparisse non solo in spagnolo ma anche nelle principali dialetti di Maya della regione. Insomma, è stata una cosa interessante, anche se credo con dei limiti, non non so all'atto pratico quanto se una lingua reinsegnata a adulti quanto possa. Crocifisso. Io ho accettato, posso dire copyright, ho accettato un invito, avevo scritto diverse cose sul problema della libertà di religione, tra cui anche sul velo islamico qualche anno fa, e ho accettato una proposta di scrivere un articolo per un libro, mal me ne incoglie perché ho aspettato, perché avevo altre cose da fare, devo scriverlo adesso, ma adesso il tempo è cambiato, mi sono vantato, mi sono difeso dal mio ritardo dicendo che sapevo che sarebbe arrivata la nuova sentenza e quindi apposta ho ritardato, cioè, però devo anche confessare che è un bel guaio adesso lì al lavoro. Sì, mi è dispiaciuta, sì, anche se è in linea, cioè la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di libertà di religione non è mai stata molto coraggiosa e questa sentenza è in linea con la sua storia. La sentenza di parziale rottura era la prima, non questa, questa è il limite, cioè di solito la Corte è molto attenta sulle e purtroppo è molto più attenta a difendere i diritti delle maggioranze che non quelli delle minoranze. Era un elemento, l'elemento di rottura, quindi bisognerà adesso che il ciclo si è concluso, cercare meglio in che cosa l'abbia indotta a quel momento di rottura, forse anche una certa estrema furbizia dello Stato italiano che nella presentazione, ma insomma voglio lavorarci un poco, però già che ci siamo, il diritto è sempre il diritto dei membri delle minoranze che va tutelato, altrimenti siamo purtroppo c'è una questione, adesso il Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite sta passando la linea che la cosa peggiore, che la libertà di religione significa punire duramente i bestemmiatori della religione ufficiale. Cioè, quindi il Consiglio si pone al centro delle riflessioni del Consiglio le barzellette danesi. Ora, per carità, gli autori della barzelletta sono degli stupidi e certamente c'era anche un aspetto, non si può pensare che fosse mero, cioè c'era anche un aspetto di insulto. Però è solo uno degli aspetti, però questo è un problema sì, importante, però no, io ho ancora le idee molto confuse e tremo l'idea che devo a fine di questo mese consegnare un articolo di cui non ho la più pallida idea. Sono molto messo in difficoltà da questa, sono stato messo in difficoltà dalla prima sentenza perché la Corte mi era parsa avere manifestato un coraggio che in questo campo non aveva mai avuto. E sono messo anche dalla seconda, però vorrei leggere di seguito l'una all'altra. Poi comunque il dibattito italiano non è molto gradevole. Il dibattito che c'è stato non è molto gradevole. Il dibattito giuridico anche. La maggior parte dei giuristi ha cercato di dire che, tutto sommato, ma perché no, visto che la maggioranza vuole questa significata da parte, cioè la versione depotenziata del significato religioso del crocifisso è stata quella che ha predominato nella critica, a parte che adesso ha anche vinto, ma che comunque ha predominato nella critica. Se io fossi un religioso praticante mi sarei anche un po', non lo so, in ogni caso è un problema che si può porre, però se la si mette come identità culturale, come si era provato nella, io allora mi domando, ma il problema del rispetto delle identità culturali non è anche il rispetto delle minoranze ad ottenere la nutrizione? Quello che però posso dire è che se invece parliamo fuori Italia, allora ci sono due linee di pensiero chiare e precise, e entrambe vanno bene. La linea di pensiero francese è niente a nessuno, laicità dello Stato significa niente a nessuno, può essere discutibile ma è chiara. La linea britannica, tutto a tutti, purché ciascuno in base alla sua identità culturale e religiosa di appartenenza abbia un posto in città. Per cui quando il ragazzino Sikh si è iscritto alla scuola islamica di Londra e voleva non portare l'abbigliamento di un certo genere ma quello di un altro, cosa ha fatto il giudice inglese? Ha controllato se c'era una scuola per Sikh praticanti raggiungibile dalla famiglia. Se questa non esisteva, allora il ragazzo aveva diritto ad una eccezione per sé o che si facesse una classe apposta per Sikh. Se invece questo c'era, la risposta era: se vogliono lo mandano lì, se no lo mandano alla scuola per Sikh. Quindi multiculturalismo totale, a parte che adesso il Presidente dice che ha fallito, ma in materia religiosa, e quindi ciascuno va alla scuola che vuole, e quindi tutte le identità culturali, religiose, eccetera, sono ugualmente libere di manifestarsi. Poi sì che avevano il problema del turbante, ma sapete che l'hanno risolto perché hanno presentato loro un modello di casco a forma di turbante, quindi hanno una cosa enorme, pesantissima, ma hanno risolto, d'accordo con le autorità dello Stato, hanno risolto tutti i loro problemi, però era più facile da risolvere perché era meramente formale. Dicevo, se per chi non lo sapesse, la questione del turbante dei Sikh, che era anche complicato guidando l'auto, la moto o sul posto del lavoro, eccetera, è stato risolto con la presentazione di un modello di casco con forma esterna turbante. Credo che sia pesantissimo, scomodissimo, però le autorità inglesi lo hanno accettato, anche quelle canadesi, e quindi questo problema è stato ormai anche molto più facile da risolvere di altri. So benissimo di non avere risposto a nessuna delle domande strutturali, ma ce n'è una o due che adesso invece stasera, che invece sono problemi effettivi che vengono posti, su cui bisognerà. Insomma, il problema del fondamentalismo culturale è un problema contrario a quello a cui ho sempre lavorato in questo periodo. Era solo in tempi molto recenti che mi è apparso, confesso il mio limite, insomma, mi è apparso nella sua effettiva esistenza. Dunque, io penso che noi nel nostro dibattito, nella tradizione del dibattito antropologico italiano, abbiamo un po' di eredità complicate, no? Quando parliamo di diritti culturali, di culture, che sono legate alla nostra storia antropologica, anche un pochino legate al fatto che noi non parliamo mai da un luogo istituzionale in cui presiediamo ad una qualche opera di tutela, per cui spesso abbiamo l'atteggiamento di chi critica tutte le posizioni possibili perché non ha l'obbligo e la responsabilità di dover rispondere di qualcuna, no? Per cui il nostro dibattito concettuale è di una mobilità certe volte un pochino impressionante, no? Avevamo appena smesso di dire che il concetto di cultura si era esteso, aveva conquistato altra audience, e le nuove generazioni stavano dicendo che il concetto di cultura era fondamentalista e che quindi non lo dovevamo usare più, tanto per dare un'idea. E d'altra parte, diciamo, l'antropologia italiana è rinata nel dopoguerra in un clima progressista, è stata fortemente influenzata dal marxismo e dallo strutturalismo e sostanzialmente ha assunto un'ipotesi di fondo per la quale diceva che vietare i dialetti ai bambini era un gesto del potere, però fondamentalmente pensava che l'unificazione nazionale fosse un bene più importante che non la tutela dei dialetti. Quante volte anche gli antropologi hanno irriso sulle lingue parlate da 200 persone o cose di questo genere. Invece in realtà le culture australiana, canadese, degli Stati Uniti, dagli anni 70 avevano una cultura della differenza, non una cultura dell'uguaglianza che predominava. E noi ci siamo portati appresso questa specie di tradizione progressista che certe volte produce delle implicazioni. Io personalmente ho cambiato posizione molte volte su queste cose, non è che quello che dico è quello che ho sempre detto, no. E ci sono molte pratiche nuove negli ultimi anni che ci spingono in qualche modo a riflettere. Ad esempio, per noi è una cosa assurda che in Sardegna si faccia come in Catalogna. In Catalogna uno accende la televisione e parlano in catalano, perché in Sardegna non dovrebbe essere giusto? Ora in Sardegna adesso c'è un largo movimento che lo rivendica questo, rivendica che si insegni il sardo nelle scuole. Molti dicono ma che fa ridere insegnare sardo nelle scuole, perché è una lingua che non esiste, le lingue parlate sono varie forme di sardo. E poi al più si dice, vabbè, per la Sardegna è giusto, perché la Sardegna è stata una regione, come dire, un po' ai margini, eccetera, eccetera, ma per il Veneto è sbagliato perché lo chiede la Lega. E allora qui abbiamo sempre un problema, diciamo, di punti di riferimento. Ad esempio, tu hai parlato dei Maori e noi saremmo tutti d'accordo per i Maori. Se poi parlassimo dei Serbi, probabilmente non saremmo più d'accordo, ma il problema non è lo stesso. Ecco, c'è proprio un problema, diciamo, però il problema di fondo che io identifico è ancora legato nella mia memoria, nella mia esperienza, al dibattito sul marxismo, perché in qualche modo quando ero ragazzo studiavo questo dibattito tra Marx e Vera Zasulic, che diceva, diciamo così, le forme di proprietà collettiva che ci sono in Unione Sovietica sono una forma di socialismo, e Marx gli rispondeva, ma no, quelle sono delle forme arretrate, arcaiche, noi per avere il socialismo dobbiamo passare per il massimo del capitalismo, perché il capitalismo è quella cosa lì che, sradicando tutte le culture locali, eccetera, eccetera, costruisce un mondo unito basato sugli individui, sulla quale poi il socialismo potrà sorgere. Ecco, ora io penso che l'antropologia di oggi, quella che i più giovani presentano in termini di de-essenzializzazione e di deterritorializzazione, in Francia c'è una fissazione sul fatto che le culture devono essere deterritorializzate. A me sembra perfino ridicolo, perché voglio dire, la cultura dove si mangiano le castagne deve essere per forza legata a una certa altitudine, e invece i francesi vorrebbero che la cultura della castagna fosse, non lo so, in mezzo al mare, in un'isola. E le culture sono legate ai luoghi, poi si spostano anche, si spostano perché ci sono le diaspore, perché ci sono i migranti, si mescolano, però è una posizione pregiudizialmente piuttosto negativa a mio avviso. Sostanzialmente quello che l'antropologia di certe correnti oggi rivendica, cioè che noi dobbiamo, antropologi, dobbiamo deessenzializzare e deterritorializzare la cultura, è quello che Marx diceva che lo fa il capitalismo. E tutto sommato mi pare abbastanza evidente che lo fa il mercato, no? Di deessenzializzare e di anche defondamentalizzare in certi contesti, no? Cioè alla fine è il mercato che, come dire, è critico verso le forme di sinistra e di destra dell'essenzialismo. Allora probabilmente è più giusto pensare che ci sono essenzialismi che le persone rivendicano e che fanno parte di diritti, e pensare il mondo futuro in termini di differenze culturali, di gruppi, e di culture. La nozione di culture indigene col marxismo e il progressismo non c'era posto, perché tutto era proiettato sul fatto che gli indigeni del Rio delle Amazzoni diventassero individui come i romani oppure i milanesi. E quindi a mio avviso dobbiamo avere anche un quadro di immaginazione del mondo che è basato su un modello di pluralità dinamica, ed è abbastanza complicato. Ma poi ci sono un sacco di problemi localizzati, è chiaro che tutto questo produce ibridismi e così via, ma diciamo ci sono delle tendenze che insistono sul fatto che è giusto solo ciò che è ibrido, che in qualche modo contrastano con, diciamo, l'evidenza delle pratiche collettive. E quindi, ad esempio, anche dire che una lingua che non c'è più non ha senso reinsegnarla, io in passato avrei pensato che non ha senso, invece adesso penso che ha senso. E voglio dire, sulla base di una piccola esperienza che mi viene da uno scambio culturale che ho avuto di recente, posso dire che alcuni del movimento separatista corso, che non sono finiti nel terrorismo, hanno proprio teorizzato che doveva rinascere il corso con le sue tradizioni, la sua cultura polifonica, la sua lingua, e hanno fatto delle battaglie perché il corso rinascesse. Oggi io ho sentito dire delle cose che in Italia sarebbero assurde. Dicono: il corso è rinato come lingua di cultura, non è la lingua madre. Non ci potevamo riuscire perché era stato estirpato, è nato come seconda lingua, può darsi che per le generazioni successive possa tornare una lingua madre. Quindi è chiaro che si tratta di un lavoro di reimpianto, e questo lavoro di reimpianto, se fatto da una comunità di persone che in qualche modo, ispirandosi ad una pratica collettiva comune di quell'area, diciamo lo desidera, a me pare che si possa dare. All'Università di Roma ci sono state delle tesi che sono state legate anche a tesi senesi sui Mapuche di un'area del Cile, dove questa lingua viene insegnata a scuola perché non ci sono più parlanti. Anche questo sembrerebbe una cosa insensata: lo Stato deve insegnare ai bambini una lingua che non conoscono più, allora non è più lingua madre? Beh, però fa parte di questo pacchetto di diritti di trasmissione che lingue che sono state violate dal potere, in un certo senso, non possano essere restituite a un corso della storia che non è il corso del progresso, no? È il corso del valore della differenza, insomma, come tutte le convenzioni sulla diversità biologica, cose di questo genere, che hanno un altro modello ideologico, cioè la pluralità del mondo dal punto di vista vegetale, dal punto di vista culturale, che è un modello che col marxismo proprio non c'è. Il marxismo, il mondo come territorio che cambia a palmi e le culture che cambiano a palmi, non lo pensava. Pensava a un mondo tecnologico, fondamentalmente legato alla nozione di forze produttive. Ecco, quindi io vedo un po' di equivoco quando questi modelli, diciamo, che stanno in antropologia e stanno un po' tra Marx riletto, Gramsci letto dagli indiani, Bourdieu eccetera eccetera, irrompono nel campo della diversità culturale, perché sono modelli forti che tendenzialmente finiscono per favorire, diciamo così, poteri unificatori, dominanti. Ecco, qualche volta lo fanno anche per difenderci dalla Lega, ma in fondo la Lega non è che una variante della convenzione di Faro, no? Cioè non hanno il diritto i leghisti a dire quello che pensano. Poi sono razzisti, fanno le loro politiche, ma anche gli altri hanno il diritto a criticare la Lega e a fare le loro politiche. Mi pare inutile criticare un modello, diciamo, di affermazione di identità perché lo praticano dei gruppi che sono, diciamo così, razzisti, se poi questo modello serve a dare la voce a milioni di comunità indigene nel mondo. Ecco, il mio problema è: sul piano giuridico ci sono delle differenze forti, o le differenze forti sono solo politiche tra le diversità buone e le diversità cattive, no? Questo effettivamente è un tema abbastanza difficile da coniugare. E anche la stessa nozione di cultura, a mio avviso, resta in qualche modo riletta, vista in chiave di diritti, perché è una nozione protettiva, diciamo quelle nozioni che la decostruiscono la cultura, alla fine non le proteggono più le diversità culturali, finiscono per farle traversare dai grandi poteri. Ecco, questo è un disagio che io sento nel dibattito che si fa. Nel nostro primo incontro abbiamo avuto questa domanda sull'essenzialismo che, diciamo, mi ha fatto un po' pensare le cose che sto dicendo adesso. È abbastanza interessante anche che due esperienze molto diverse che ho fatto, appunto questa della Corsica e l'avere studiato le stragi naziste in Italia, da questo punto di vista dei diritti torni a essere interessante, perché sostanzialmente molti diritti sono di popoli che sono stati sterminati. Ora, ad esempio, a me ha colpito molto il fatto che questo regista italiano Diritti abbia fatto un film sulla strage di Montesole, di Marzabotto, in cui tutti parlavano in un dialetto stretto, no? È stato come la rivendicazione di una particolarità che non ha voluto concedere nulla allo spettatore che li voleva vedere, i contadini che parlavano italiano, no? Quindi ha rivendicato una modalità molto forte dell'essere sulla base della quale la strage assumeva un senso. Perché se avessero parlato in italiano, sostanzialmente la strage sarebbe stata iscritta tra le tante stragi naziste del mondo e non sarebbe più stata la distruzione di quella comunità sulla quale poi Dossetti ha costruito un monastero, una pratica, diciamo, di culto religioso che era legata proprio alla morte di quei contadini praticamente ignari della guerra, no? Quindi, che era un po' come i nativi delle culture indigene, no? E quindi sembrerebbe che certe volte è più capace la cultura cattolica di riconoscere questi valori forti, radicati di diversità, che non una cultura progressista che tende sostanzialmente per finire per avere, diciamo così, progetti omologatori buoni contro i progetti omologatori cattivi. Però ecco, quello che mi interessa particolarmente in quello che hai detto è un po' il senso di, diciamo così, di essere agli inizi con un'antropologia del patrimonio. Io, poiché probabilmente sono l'unico che fino adesso l'ha insegnata antropologia del patrimonio, mi sento in queste conferenze come uno che forse non avrebbe ancora il diritto di insegnarla, cioè stiamo proprio un po' fondandola. Io non conosco bene neanche tutta questa letteratura che Lauso conosce. E noi siamo partiti sostanzialmente in Italia dal codice dei beni culturali del paesaggio e poi dalla convenzione UNESCO. E tutte le radici precedenti, sì, c'era la commissione Franceschini, la nascita del ministero, conoscevo la prima versione della tutela del folklore, quella dell'89, ma tutte interne al nostro mondo, tutte interne al nostro mondo, mentre è più interessante poggiarle su, diciamo, il processo di crescita della comunità internazionale, perché qui si vede meglio che l'UNESCO, anche quando fa le schifezze più atroci, no? Fa parte di una comunità e le fa quasi tutti i giorni, per cui io da quando ho cominciato a difendere l'UNESCO sono sempre più in difficoltà, perché l'UNESCO, diciamo, adesso col palio di Siena, ad esempio, a Siena c'è una specie di insurrezione, e allora l'UNESCO entra in questo senso comune ridicolizzato, no? Perché a Siena, Alessandra, dicono, allora vale più il Zibibbo che il Palio di Siena, perché poi questo contesto UNESCO permette queste comparazioni che sono vicine alla follia, no? Tra la pizza, lo Zibibbo e il Palio di Siena. Però si capisce anche da quello che tu dicevi che il Palio di Siena, se viene il sospetto che tocchi i diritti degli animali, come da tempo in Italia, diciamo, la Lega della Protezione degli Animali ha sostenuto, la ministra Brambilla e così via, si capisce che va in una zona complessa di intersezione, e i senesi, che hanno passato gli ultimi 30 anni a dimostrare che invece loro sono dei grandi cultori del cavallo che vive di un grande benessere e anche grandi onori presso di loro, non sono riusciti a far prevalere questo. E forse questa è la cosa più pesante, perché io credo anche che sia assolutamente vera, se c'è un luogo dove il cavallo è oggetto di culto, forse tra i nativi americani, tra i senesi, insomma. Ecco, dicevo che vedere in questo scenario cambia un po' anche l'approccio. perché noi tendenzialmente non lo vediamo tanto in termini di diritti, ma di riconoscimento del nostro sapere, che non è una professione, anche questo è un punto di debolezza, quindi su questo ci dobbiamo un po' dare anche delle svolte, perché io credo che noi dobbiamo anche ogni tanto esercitarsi ad assumere il punto di vista se fossimo dei funzionari dello Stato che debbono esercitare una forma di tutela. Perché se non ci poniamo mai da questo punto di vista, da un lato è inutile poi che noi diciamo che vogliamo avere delle attività professionali, perché non ci addestriamo neppure a pensarle. Se invece le pensiamo, è chiaro che dobbiamo, come dire, fare atti che stanno nella contraddittorietà del mondo, per cui quando tu fai un atto probabilmente entri in contraddizione con un altro e modifichi delle pratiche. Quindi ad esempio il tema della proprietà intellettuale, che nella tradizione italiana era emerso soltanto per il problema del canto popolare, e era stato l'Istituto De Martino a lanciarlo, c'è stato anche un tentativo di legge negli anni 60, primi anni 70 mi pare, proposta dell'Istituto De Martino, che cercava di tutelare il patrimonio popolare, perché sostanzialmente quando ci fu la moda del folk una serie di cantanti prendevano e dicevano patrimonio popolare e così non pagavano nulla, no? E quindi magari la fonte veniva pressoché nascosta, però poi non è cresciuto neanche questo tipo di problematica. Adesso ritorna un po' con i riconoscimenti UNESCO anche, perché lo pongono in evidenza, non so, a chi appartiene il Carnevale di Viareggio, no? A chi appartiene la pizza, ad esempio, questo sarà un po' difficile. Ecco, quindi connettere anche con la normativa europea, che poi da quello che capisco e da quello che tu hai ribadito è una normativa un po' in fieri questa, la normativa europea. Diciamo che forse l'aspetto che a noi interessa di più è quella parte della dichiarazione delle comunità patrimoniali di Faro, che in un certo senso modifica la nostra tradizione di uso delle nozioni di comunità, perché la comunità patrimoniale sostanzialmente è una comunità che si sceglie e quindi è quella che io nel lessico de Martiniano chiamerei quella che è una patria culturale e non è una patria di sangue e di terra, per cui sostanzialmente se adesso noi riusciamo a promuovere il riconoscimento come patrimonio... Elettiva, sì, De Martino la chiamava patria culturale, diceva, lui aveva adottato la Lucania come patria culturale, pur essendo napoletano, per una serie di valori, e questa è una linea degli antropologi. Per esempio Cirese dice di essere di quattro patrie, c'è cioè Molisano, Abruzzese, Sardo e poi di aver adottato anche il Messico come sua patria culturale, che è anche un'idea un pochino più sensata dell'ibridismo, no? Cioè identificare radici, perché quella è una modalità di identificare radici, questa è una parola un po' pericolosa per gli antropologi, quella radici, che però significa anche mondo di affetti, di riconoscimenti, di appartenenze, che secondo certe tradizioni antropologiche queste sarebbero parole indicibili già di suo, no? Appartenenza, identità, saremmo già su un terreno pericolosissimo, quindi neppure gli affetti potremmo avere. E io ci vedo in questo una minaccia di deculturazione, quindi vedo un'antropologia che li vuole distruggere i diritti, quindi stiamo attenti. Allora non possiamo avere due facce, in una vogliamo deculturarci e in un'altra dobbiamo fare i difensori dei diritti, quindi c'è un'ambiguità che mi sembra interessante, però mi volevo soffermare più che altro sull'opportunità di costruire una bibliografia, diciamo, interconnessa, no? E anche di leggerci attraverso degli approcci diversi, perché diciamo queste modalità delle culture, come le vedi tu, si capisce che sono da un'altra angolatura. La nostra angolatura tendenzialmente, io credo, ma anche analizzando me stesso, no, quando ti dico questo, è questa, che ad esempio la comunità di Viareggio vuole il riconoscimento del Carnevale. Io già storco il naso, perché a me il Carnevale di Viareggio non è che mi piaccia particolarmente, dico, ma se c'era una cultura originale ne potevano trovare delle altre, e quindi che faccio io con questo atteggiamento? Tendo a pensare che le culture sono oggetti di mia pertinenza in quanto antropologo culturale, no? E quindi non tendo a pensare che l'UNESCO ha radicalmente democratizzato l'accesso alla dichiarazione di cultura, e quindi che se c'è un gruppo che vuole promuovere, non so, i nani da giardino, quello ha completamente il titolo di farlo, no? Naturalmente noi come antropologi cerchiamo in qualche modo di presentarci come consulenti della comunità patrimoniale, però se come consulenti noi volessimo invece decidere che cosa è cultura e cosa non lo è, beh, sostanzialmente saremmo un po' antidemocratici. Noi abbiamo anche questa doppia caratteristica, no? E in Francia nel dibattito è stato molto evidente, nel momento in cui l'UNESCO favoriva l'autodichiarazione di patrimonio, gli antropologi sono tirati indietro, hanno detto: come? Questo era il nostro mestiere, riconoscere il patrimonio, no? O passate da noi e allora il patrimonio è quello giusto, oppure se lo producono le comunità locali, questo invece è un pluralismo di identitario di tipo fondamentalista e cattivo. Quindi c'è anche, come dire, un nostro rischio di posizione conservatrice, no? Che subordina alla nostra capacità. Ecco, visto dai giuristi che non ce l'hanno questo retroterra, è molto più interessante, perché voi ci vi muovete con questi concetti e tu dici legge bella, sacrosanta, non in base al fatto che sia una cultura antropologica in qualche modo definita, ma in base al fatto che, diciamo così, vedi la crescita di una pluralità giuridica, cenerentolizzarsi. Ecco, quindi mi sembra, ecco, che ne viene una lettura contrastiva che secondo me è piuttosto interessante. Quindi se possiamo, io credo dobbiamo lavorare a costruire bibliografie, lessici comuni, e sarebbe interessante che un libro nostro uscisse con una prefazione tua che ci dai il quadro giuridico, perché ecco è una disciplina che sta un po' nascendo ancora, e appunto la scuola di specializzazione romana sta per nascere e penso che possa averne vantaggio, ecco, da questo. Ad esempio in Italia sta appena nascendo la tematica del patrimonio vista sul mondo delle ricerche sul campo extraeuropeistiche, no? E invece tu l'hai già studiata, diciamo, molto più quella che non quella, quella italiana, quindi sono degli scambi che mi sembrano proprio utili, e quindi io ti lanciavo questi segni di... C'è da rispondere perché è molto ricco, c'è solo da studiare questa cosa, però un paio, era qualche chiosa, è come no, la prima fondamentale: io sono veneto, ma in che senso sono veneto? Sono veneto di Monselice, Colle Ugani, dalle mie parti se un ragazzo rischia di crescere a stemmio lo portano da uno psicologo all'età evolutiva per capire quali terribili, per dire, la patria del vino, ma non è di questo, sotto questo punto di vista, e neanche sotto il punto di vista che sono a pochi chilometri dalla città di Petrarca, ma sono a pochi chilometri da Pernumia. E cos'è Pernumia? È la città del Beolco, la città dell'Usante. E qui col discorso sul dialetto veneto, sulla Lega, centriamo. Come? Perché il problema non è il dialetto veneto, è che il dialetto veneto non esiste. Quello che noi chiamiamo dialetto veneto è la rimodellizzazione territoriale di una lingua che si è imposta sui dialetti del Veneto con ferocia imperialistica, se così possiamo dire, cioè seguiamo i leghisti sul loro terreno. Quello che noi chiamiamo dialetto veneto è l'imposizione con la forza tra il 300, il 400 e il 500 del dialetto veneziano sull'intero territorio e su dialetti completamente differenti. Rusante, che scrive già nel secondo Cinquecento, è l'ultimo grande scrittore locale, l'ultimo grande difensore del Pavan, cioè del vero dialetto padovano. Tutti i cognomi che oggi fanno Padovan, eccetera, sono tutti cognomi veneziani. È la città la città era Pava, tra l'altro con una V sibilante che io non sarei più capace di dire. E il dialetto e la lingua dell'Usante era una lingua dura, gutturale, il contrario del veneziano, è il contrario del dialetto veneto di oggi. Un po' rigotu, cioè era una lingua di poche parole, con una cupezza gutturale totale, pochissimo dolce, poche vocali, c'è proprio un'idea completamente differente da quella che voi potete avere oggi, perché è una lingua che è vera, è il veneziano. Naturalmente poi il veneziano, rimpadronendosi delle varie articolazioni del Veneto, ha ritornato a differenziarsi, perché c'era una base linguistica, è inutile che stia io a dirlo a voi, ma quale Veneto? Cioè, se noi andiamo, e dove finisce il ritorno all'indietro? Dove finisce il legittimo ritorno all'indietro? Le compagnie moderne di Risontini, che pensano di parlare il dialetto del Rusante, ritrasformandolo in vero dialetto veneziano, quindi liberato da tutto quello da tutte le forme di italianismo, fanno un'operazione culturale completamente a rovescio, che potrebbe essere ben fatta per certe commedie della tradizione veneziana, ma che assolutamente nulla vale per la Betia e per le grandi opere. Quindi questa è la prima domanda, cioè quale cultura? Io non penso affatto che bisogna maledire, penso che vadano inseguite le contraddizioni fatte scoppiare su quella, adesso non è per usare termini marxisti, ma che è verissimo. Il problema probabilmente di certe esperienze è che volevano farci esistere un nord che non è mai esistito, un Veneto che come tale non è mai esistito come cosa unitaria, cioè sappiamo come è stata fatta in maniera schifosa l'unità d'Italia, ma ce l'abbiamo, non mi pare assurdo tornare indietro, ma se parliamo dei modelli culturali della loro rivitalizzazione, io sono pienamente d'accordo, però voglio dire, loro sono quelli, non sono un dialetto, per esempio un dialetto veneto che non è mai d'acchito, che non ha mai esistito in quanto tale, se non come forma anche feroce in certi momenti di cancellazione del parlato. Del parlato che c'era, questa è un'idea che posso avere io. Bellissima la cosa a proposito di cosa, quando tu parli dei Mapuche, alta chiosa, alla mia tradizione culturale marxista è stato un colpo scoprire questa continuità essenziale tra i regimi conservatori, il regime socialista, i fascisti, dopo c'è che sia Frei, che fosse Allende, che fosse il dittatore dopo, le forme peggiori, su una cosa tutti i governi cileni che si sono succeduti nel tempo sono assolutamente omogenei e contrari rispetto anche all'attuale tendenza che si è vista in altri paesi, che ha la modificarsi della Costituzione del 1988 brasiliana, la legge boliviana, tutte quante, la stessa Colombia, le leggi, le norme che riconoscono i diritti delle popolazioni, delle culture indigene, un solo paese del Sud America è adamantino, lo è tuttora, è un atteggiamento di feroce repressione culturale, qualche volta non solo culturale, e questo paese è il Cile, ma lo è in tutte le sue pur opposte manifestazioni, e tra l'altro la cultura progressista europea non l'ha mai conosciuto, non l'ha mai saputo, io stesso lo so da 2 anni. È stato un po' un colpo a scoprirlo, appunto, per quando, cioè, scoprire che c'è un profilo sotto il quale il Cile di Frei, quello di Allende, quello dei fascisti, quello della giunta e quello del recupero della democrazia sono assolutamente omogenei, che è stata la repressione di tutte le manifestazioni autonomistiche e culturali di Mapuche, tra l'altro oggi diversamente da quanto capita nel resto del Sud America, perché c'è stato un momento in cui questa era la politica generalizzata in Sud America, ma in tempi più recenti, anzi direi che è una delle parti del mondo in cui ci sono stati più fenomeni positivi e interessanti e di apertura alle istanze che si possano conoscere. C'era un altro paio di cose, questo discorso sulla deterritorializzazione sono pienamente d'accordo con quanto viene detto, io lo userei al positivo per dire che proprio per questo il ruolo delle migrazioni nella ibridazione è un ruolo essenziale e bisognerebbe fare più attenzione al problema delle identità culturali migranti in Europa, che mi pare un tema che l'attuale, anche qui da parte delle associazioni pur meritevoli che più si battono a favore dei diritti dei migranti, ma questo tema a volte dà fastidio perché sembra riportare indietro rispetto appunto a proletario del mondo, unitevi per capirci, che ora con tutta la sia appunto il seguito che va dato a chi, io sono del Veneto, quindi le associazioni e i gruppi di giovani che si battono per i diritti dei migranti da noi corrono un rischio di isolamento molto forte, quindi meritano, però il fastidio che a volte si ha invece per questo tema non sembra che invece è fondamentale, credo che dovrebbe essere più studiato. Ah, però una cosa sugli animali. Io sono d'accordo con voi, perché è un problema, d'accordo con te sul tema dei cavalli, perché bisogna anche porselo questo tema. Pensate al bovino, cioè il discorso della corrida può essere visto sotto due modelli. Se c'è una specie che è stata nobile specie di animali, che ci ha camminato al nostro fianco per molto tempo e che ha fatto parte della leggenda umana per molto tempo e che adesso è trasformata in povero bestiame esclusivamente da macello con condizioni di vita terribile. Ora, in qualche modo la tauromachia è l'unica cosa dove ancora il bovino ha onore, se così possiamo dire. E naturalmente questo non può voler dire che ti piacciono le corride, che poi impegno uno spettacolo insensato. Tuttavia è vero che bisogna anche tornare a ragionare su certe cose. Quando parlavi dei cavalli a me veniva in mente la questione appunto del toro, adesso con l'inseminazione artificiale, la castrazione, la cosa eccetera, i bovini sono ridotti a animali che vivono, salvo le mucche da latte nelle malghe, che vivono una vita fortunata, per il resto è una delle atrocità. E da questo punto di vista quelli che praticano la corrida ti possono dire la stessa cosa che voi dicevate, del cavallo del palio, cioè che da loro, dentro questo esempio, è l'unica attività esistente, attività desiderante, quindi attività con un profilo culturale ricco, in cui al bovide è ancora fatto onore, e quindi potrebbero opporre questa cosa. Questo può voler dire che la corrida è sacrosanta? No, però io sono sempre stato contro e resto contro la corrida, però è vero che c'è anche questo profilo che valeva la pena dare. Anche noi siamo appena avvicinati a questi temi, anche noi giuristi che ci occupiamo di queste cose ci siamo appena avvicinati, e considero anche idealmente un maestro, il professor Scovazzi, a volte alcune sue battute sugli antropologi, anche se molto bonarie, non sono del tutto un po' esagerate. Però è anche vero che noi valuti abbiamo il privilegio, una materia, la forma è anche un privilegio, cioè tu ti puoi porre un problema in termini più facilmente risolvibili di quanto lo faccia la vostra scienza, che poi in questa materia è la vera scienza sostanziale, perché noi dobbiamo cercare che cosa è conforme alla Convenzione del 2003 e quindi merita, non che cosa merita, salvo che, visto che ci sta rappresentando una scienza che non a caso aveva come animale sacro quello che nel buio, cioè quella che viene dopo. Una volta che le scienze sostanziali ci dimostrano che quella forma non va bene, non va più bene, non va bene, va cambiata. Però, il Carnevale di Careggio non lo so. Noi a Venezia, a ottobre, abbiamo fatto questo convegno prima del nostro, di quello insieme sulle culture dell'Europa. C'è stato quello, sempre mangiato dal professor Scovazzi, che si è avvalso anche della mia collaborazione, e sono venute tutte le associazioni veneziane che hanno pretese. Alcune erano molto acquerrite nel presentarsi. Devo dire che si sono presentati acquerriti anche quelli del Carnevale di Venezia, e tuttavia a fronte dei criteri oggi utilizzati per la tutela convenzionale, ci sono gli unici che sicuramente non c'entrano, anche se io non so quanto questo sia vero. Se per esempio fosse la convenzione, il discorso di comunità patrimoniale della convenzione di Faro, il gruppo che organizza e promuove il moderno carnevale di Venezia, rispetto alla convenzione del 2003 e ai criteri, alle guidelines oggi esistenti, essendo una cosa che è morta e sepolta 400 anni e passa anni fa e che poi è stata ripresa negli anni 70 in parte copiando, eccetera, certamente non rientra. Però non è che mi dica che questo non è, e quello non è espressione culturale intangibile, se uno pensa anche agli sforzi che sono stati fatti a Venezia e al fatto che in qualche modo, non sempre, con dei cedimenti allo spettacolo, ma qualche traccia di identità culturale del moderno patrimonio veneziano la si può ritrovare. E tuttavia in qualche modo mi agevola il fatto che ha un testo convenzionale, ho le guidelines del comitato, allora di tutti quelli che si sono presentati, che erano le vetrerie, che erano i merletti, che erano, secondo me, la cosa più interessante di tutte, il procedimento tradizionale di fabbricazione, di costruzione e messa in acqua della gondola veneziana, che è a grave rischio anche perché adesso arrivano le gondole in plastica, eccetera, che era quello che si è presentato nei termini più accurati come riconoscimento di patrimonio culturale produttivo vivente. Però rispetto a questo devo dire il Carnevale di Venezia, con tutta il suo interesse, non può rientrare oggi nella convenzione, ma probabilmente magari un domani cambiano le guidelines, sì, perché questo può essere un limite delle guidelines. Per esempio, se uso il termine di comunità patrimoniale secondo la convenzione di Faro, già la loro pretesa è maggiore. E qui ci sono anche delle, perché come dici tu, la convenzione di Faro va un po' oltre, e quindi la colpa originaria, che non c'è continuità e che tu hai creato una cosa ex novo in parte rifacendoti ai sacri libri, a quello che ti dicevano su com'era il carnevale nel 1400, nel 1500, e in parte guardando le cose ultime, potrebbe non essere così negativo e così cancellato. Oggi sicuramente sì, rispetto a questa. È vero che se io penso alla convenzione di Faro, il fatto che quell'espressione culturale abbia taciuto per 400 anni, sia ricominciata 20 anni fa, non esclude affatto che possa essere considerata che possa essere considerata come neo vivente, neo una cosa ripensata e rinata. Per il resto, però, certe volte essere un giurista è più facile, perché abbiamo, quando non sappiamo cosa fare, abbiamo dei dati obiettivi su cui, dati obiettivi in quel senso lì, non dati obiettivi scientifici, ma dei dati normativi su cui poterci ancorare. Comunque, invece, credo di essere molto d'accordo anche a nome del collega con cui stiamo lavorando. Noi stiamo facendo un libretto didattico con Marco Giampieretti. Adesso uscirà per il prossimo anno accademico un testo sulla protezione a livello internazionale ed europeo sulla salvaguardia e protezione del patrimonio culturale, ma poi pensiamo di fare un manuale integrato qui ci sia anche l'ordinamento italiano e riuscire a mettere un po' insieme queste cose, e poi un libro insieme, in qualche modo insieme, uscirà fra poco, perché è quello sulla cultura europea. E poi spero che ci siano altre, a parte Angogno, che ci possano essere altre esperienze, c'è tutto da imparare. Comincio anche a capire le sottigliezze, dopo un paio d'anni che lavoro tra le varie scuole antropologiche, perché prima all'inizio il mio discorso era mi relaziono con gli antropologi e con le antropologhe, non avevo... ci vuole del tempo prima di cominciare a assaporare che ci sono delle scuole, delle differenze di scuole, sempre cercando di non farlo.